vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ma tu dici? Io ci andrei volentieri. La palla, non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere gli uni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ragazzi, a me non me ne frega niente di quello che discutete, non me ne frega niente di questi argomenti, io voglio sentire soltanto Parenzo che dice cucù, cucù, cucù, voglio solo sentire Parenzo cucù. Ascoltando la zanzara alle 3 di notte dalla Cina, siamo al top. Due frasi per iniziare oggi, caro Parenzo. Lui si riferiva a quella... Pen non c'è più. Cucù, cucù. Lo sai che secondo me invece l'ascoltatore si riferiva a quando facevi cucù, com'era, no, Pippo Franco? Chi, sì, secondo chi, me chi chi chi co, co, co, co, scusa. Cucu, cucu, cucu, ah, no, forse hai ragione, si riferiva a quando facevi cucù alla Le Pen, sì, cucù alla Le Pen. A Salvini alla Le Pen, cucù. Allora iniziamo con due frasi oggi, due frasi di Massimo Fini, del signor Massimo Fini. Massimo Fini. Allora, cosa dice a proposito sempre dello scandalo delle banche? Il modo migliore per salvare il nostro denaro è spenderlo, dilapidarlo, possibilmente a bagasce e al casinò. Sulla prima si può anche essere d'accordo, bagasce, io non è che sia un fruitore, sono andato qualche volta, come sapete. Ma il casinò, no ragazzi, non si può spendere i soldi al casinò, dai, spendere nel poker, queste robe qui, lo trovo veramente una perdita, cioè a quel punto meglio, che ne so, meglio regalarli a Parenzo i soldi, cioè, bravo. Piuttosto che andare al casinò, il gioco. Io capisco molto quelli, nero sì. Vince, non so bene, cioè, tu capisci quelli che si fottono i soldi, assolutamente. Come Marco Baldini gioco. No, io poi tra l'altro sono molto attento, quindi cerco di no. Però sono andato una volta all'anno, mi capita di andare al casinò con soldi contati. Ecco, il segreto è quello. No carta di credito. Ma i veri malati non è che vanno i soldi contati. So, i veri malati lo so. Però capisco il brivido di quelli che a un certo punto sai. Allora, la seconda frase invece, sempre di Massimo Fini, sulla questione delle banche, dei truffati, cosiddetti truffati, eccetera, eccetera, è questa. Si dovrebbe perlomeno diffidare di chi propone guadagni che sfiorano il 10%. Spiace dirlo, ma i risparmiatori delle varie banche Etruria sono stati particolarmente coglioni. A proposito di speculare sui morti, perché come sapete la vicenda è aumentata di volume, di chiasso, di discussione dal momento della morte del pensionato Luigino D'Angelo. Signor Luigino D'Angelo, signore, insomma, ormai è morto, non si può manco dire il signor Luigino D'Angelo. Salvini ieri da noi, così per ricapitolare, perché è stata un po' la notizia del giorno, queste dichiarazioni bomba di Salvini, che ha detto che la colpa del morto è di Renzi. Sì, ho scritto che è un suicidio di Stato, l'ho scritto fin da subito. Sì, sì, ce l'ha sulla coscienza Renzi, fuori dubbio. Quando quell'infame di Renzi parla di sciacalli che si approfittano dei morti, ma vanno a dire alla vedova del pensionato che si è suicidato, che è una sciacalla. La morte del pensionato è la scelta del governo, e quindi Renzi sicuramente sì, ovvio, evidente. Così, en passant, ha proposto anche il blocco dei beni della famiglia Boschi. Dovrebbe risponderne, dovrebbe avere i beni bloccati, i suoi beni bloccati, non so se sia ricco o povero, non lo so. I beni della famiglia Boschi dovrebbero essere bloccati e tenuti sotto sequestro in garanzia, ad esempio, di quella vedova. Senti però Barisoni, se ti vuoi far mandare i messaggi d'amore, i messaggi d'amore via WhatsApp, cioè c'è Barisoni che sta utilizzando i messaggi WhatsApp a uso strettamente personale. È arrivato ti giuro, è arrivato qui un messaggio. Ma non è così. Con la quello si occupa di banca, no, ma la testa. Aspetta, c'è una fotina, ma quanto è bello e affascinante il signor Barisoni, con una faccia e con un cuoricino. Ma perché non possiamo vedere la sua diretta in video? Ma adesso questo è un altro tema, si può approfondire. Ma questa signorina, peraltro molto carina, che risponde da un numero estero, perché 0055 sei geloso, no, non me ne frega niente. Però non è che questo è sfruttamento, uso privato di un mezzo della radio. Ma che cioè, dai. Sfrutta i numeri di telefono per rimorchiare, questo non va bene, questo non va bene. Sulla questione dei morti, il fascino discreto dell'economia. Ascolta Sebastiano Barisoni. No dai, basta questo, tutta questa pubblicità per Barisoni. Ma chi lo conosce? Dai su. Allora, ma non lo conosce nessuno. Ma dai, aspetta. Allora, aspetta un secondo. Allora, la questione dei morti, dello sfruttamento dei morti, no? Perché tu dici sempre: non si possa, la politica non deve sfruttare i morti. Invece io, guarda, sono arrivato alla conclusione che è esattamente il contrario. Non sfruttare. Ma se non si parla dei casi clamorosi, quando si parlava del caso Tortora, di cosa si parlava? Si parlava del caso Tortora sia da vivo che da morto, quando ebbe dei problemi. Ma è giusto parlare dei casi quando vengono portati all'attenzione dell'opinione pubblica per la morte di qualcuno? È normale che sia così, altrimenti la politica di cosa si deve occupare? No, ma d'accordo, siamo d'accordo, ma è così, ragazzi. Dipende come lo fai, come ogni cosa, ma si può dire che quel morto pesa sulla coscienza di Renzi? Ma questa è una di cosa di cui si attribuisce la responsabilità a Salvini. Ma di questo parliamo politicamente. Attenzione, Renzi ha detto due giorni fa ha detto che gli fa schifo chi strumentalizza i morti. Lo vogliamo risentire Renzi che ha detto questa cosa? Dunque gli fa schifo anche Salvini di conseguenza, no? Perché adesso ha strumentalizzato un morto. O tutti quelli che attribuiscono la responsabilità del morto, del pensionato morto per la questione delle banche, all'esecutivo, al decreto dell'esecutivo. Sentiamo Renzi. Chi pensa di strumentalizzare la morte delle persone, personalmente mi fa schifo. Lo dico con molta serenità. Le polemiche politiche si fanno a viso aperto. Eccetera. Allora, giustamente qualcuno ha osservato, io subito ho ripreso la palla al balzo, caro Parenzo, che Renzi il 6 di settembre, quando ci fu la tragedia del piccolo Aylan morto sulla spiaggia di Bodrum in Turchia, proveniente dalla Siria, il piccolo siriano morto, sì, fece vedere, non mi ricordo dove cazzo era, la direzione del PD, non so dov'era, una foto enorme del signor Aylan, del piccolo Aylan morto sulla spiaggia, per dire delle cose. Dunque anche lui in qualche modo ha sfruttato quell'immagine, ne ha fatto un discorso politico dicendo che l'Europa non si può permettere queste cose qui, perché è normale che, non dico che ha fatto male, ha fatto benissimo, ma è normale che la politica, poi se fa bene o non fa bene, se fa le cose o non fa le cose è un altro discorso, deve parlare dei morti, perché i morti, il caso dei morti diventa importante per discutere di un problema. Renzi con Aylan, dai. Perché questo è un tempo nel quale abbiamo bisogno di idee, di ideali. L'avete vista quella foto? Fai vedere Franco la foto di quel bambino, Aylan. Si è aperta una discussione. È giusto vederlo questo bambino, 3 anni? È giusto vederlo o giusto non vederlo? Ok, togliamo questa foto. Franco, metti la foto di Aylan e del suo fratellino Galib. Vi consola questa foto pensare che questi due bambini, tutti e due, sono morti come migliaia di altri bambini? Dai su, ma ragazzi, ma non si possono dire delle cose, bisogna essere coerenti un minimo, cioè bisogna avere le palle per essere coerenti. Si può parlare dei morti, si deve parlare dei morti, infatti non è che nessuno, ma in questo nega caso questo. Renzi parlò di umanità e del bisogno di intervenire, quelli scappavano da zone di guerra e ma volevano lascia perdere essere l'argomento salvati. Lascia non perdere non l'argomento, ma come però. No, dai, non ci sono discussioni. Renzi parlò dei morti facendo vedere addirittura la foto di quelli vivi e la foto di quello morto, i fratellini vivi credo, e o comunque i fratellini, è morto pure il fratello, non mi ricordo. Comunque fece vedere le foto, quello no, è sicuro. Il fratello è riuscito a ritornare. Insomma, non so che foto fece vedere, sicuramente fece vedere la foto di Aylan morto per dire che l'Europa deve essere compassionevole, che si deve aprire, che deve un discorso politico fatto con un morto ancora caldo. Oh, andiamo. torniamo alla questione del conflitto di interessi del signor, della signora Boschi di cui si parla. Io per il momento ma non vogliamo ricordare almeno per un minuto il grande Armando Cossutta e il ruolo che ha svolto comunque nella politica italiana. Ragazzi, io me ne vado, io veramente abbandono, ragazzi, a 18.45 me ne vado, esco. Partigiano della Garibaldi. Ma scusa, ma perché io devo ricordare Armando Cossutta? Ma muore tanta gente. Però il vecchio Armando Cossutta ma un po' mi fa commuovere perché l'ho conosciuto, l'ho intervistato. Comunque ho capito che qui sulla radio Confindustria ma che c'entra non lo vuoi neanche ricordare, ma che per me ne un frega secondo. Di Cossutta? Ma no, avanti, perché con tutto rispetto è morta una persona, sì, sì, una che è stata in Parlamento un sacco di anni, un comunista convinto, filo sovietico, per carità, va bene tutto. Figura, comunque no. Ma che ne so, ma che me ne frega a me? Muore tanta gente, è morto Cossutta, pace all'anima sua, pace all'anima sua, va bene, per carità, ma non infierisco, non me ne frega niente. Non mandiamo un video ritratto, che so, un paio di battute. A parte che siamo in radio, il video ritratto è un po' complicato. No, però un paio di dichiarazioni il video ritratto di Cossutta, un paio di dichiarazioni dico, ma guarda di posso veramente no. non voglio infierire su Cossutta stesso avanti, non voglio infierire su Cossutta stesso bene, mandando capisco alcune... che non ti interessa, io ho proposto, andiamo avanti va bene. Allora la questione della Boschi. Gasparri dice vuole vedere dice che ci vorrebbe una mozione di sfiducia al Senato perché si vuole divertire, in realtà vuole divertire a vedere l'immagine della Boschi salvata dai voti di Verdini e di Danna, questa è la sostanza. Dico che c'è stato un errore. Qual è? I 5 Stelle, chi presenta la sfiducia alla Camera fa un errore, perché alla Camera i numeri dovevano presentarla al Senato, che sarà uno spot a favore della Boschi. Invece se si presenta al Senato la Boschi si salva col voto di Verdini, col voto di Falanga, col voto di Danna, e ci divertiremo. Aspetto la mozione al Senato per vedere la Boschi salvata da Verdini, cioè deve essere un video che sarà diffuso nel mondo. Però non ci sarà al Senato, non ci sarà. Perché non ci sarà al Senato? Ci sarà, lei dice? Cioè, certo che ci sarà. La presentate voi? Io la firmo immediatamente, ci sono persone che la presenteranno. Ci sarà. Allora, ma l'opposizione fa il suo dovere in questo caso, cioè presenta una mozione di sfiducia nei confronti di un ministro. Se è sempre legittimo. Fatto, è assolutamente legittimo, è inutile che uno attacca. Io non so se c'è conflitto di interessi. Sicuramente la Boschi deve spiegare qualcosa. Sicuramente deve spiegare qualcosa. Lo vada a spiegare in Parlamento, punto e basta. Io non so se c'è conflitto di interessi, non c'è conflitto di interessi. È una materia un po' complessa. Non è, fino adesso non è apparso un conflitto di interessi clamoroso. Clamoroso, questo non c'è dubbio. Però vada in Parlamento e spieghi cosa ha fatto, i passaggi, se era presente al Consiglio dei Ministri, perché non ha votato, il ruolo del padre, se si è sentita col padre per fare, magari per contribuire a fare il decreto, eccetera, eccetera. Che legami ha il padre con il padre della Boschi con il padre di Renzi, e se le società hanno ricevuto dei finanziamenti dalle banche, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che la gente deve sapere ed è giusto che sappia in Parlamento. Però Faraone, per esempio, il signor Faraone, che è un altro ministro, cos'è? Sottosegretario, sottosegretario all'istruzione, che dice anch'io mi dimetto per conflitto di interesse perché mia figlia, non mi ricordo che ha detto, questa oggettivamente è una puttanata, non c'entra niente, Faraone, dai. State costruendo un caso semplicemente perché fa audience, non perché esiste un conflitto di interessi. Sì, mia figlia va a scuola, mi dimetterò da sottosegretario all'istruzione perché mia figlia va a scuola, perché è un conflitto di interessi anche quello. Traffico veicolare. La Zanzara. La Zanzara è il tendone dei fenomeni da baraccone, e ripeto, lo dico con amore. Ma per favore, ma Cruciani, ma questa è follia, ma qua siamo alla follia più totale. Allora andiamo a Parma, Marco, primo ascoltatore della serata, vai Marco. Sì, guarda, quello che dicevi prima, che dei morti bisogna parlarne, sì, questo purtroppo è vero, non piace ma è proprio così. E quindi la consigliera dei 5 Stelle che sì, ha fatto di ieri, quelle sì, affermazioni sì. infelici, ma ha fatto bene secondo me a parlarne. No, ma tu dici che ha ragione addirittura se pensi questo. No, ha torto, ma è stato meglio che ne abbia parlato, no, perché questo, le donne, questo ormai ne ha parlato, perché non è che se ce lo dici tu donne, adesso non conta nulla. Le donne perché le donne devono fare i conti con la realtà. Quando avvengono questi femminicidi non si può dire poverina, è stata vittima di questo delinquente. E cosa si deve dire? Le donne ancora vive devono riflettere che prima di scegliere un compagno oggi bisogna pensarci, bisogna abbandonare bisogna abbandonare l'attrazione? Per quel maschio alfa che da tempi atavici attira giustamente la donna, cioè l'uomo dominante che è frustrato da mille situazioni, sia che sia di un'etnia diversa, e questo è un altro problema che esiste, ma anche fra cioè no, ma fra spiegami italiani, Marco, cioè una donna deve evitare il maschio alfa, perché altrimenti il maschio alfa, cosiddetto maschio alfa, potrebbe ucciderla, è così? Marco, siamo alla follia pura. Scusami, Marco. Ci sono delle costanti. Ci sono dei segnali da interpretare. Marco, devi avere un po' di pazienza. Stai dicendo una serie di castronerie assolute. Se uno sospetta che il proprio partner, amante, lo può ammazzare, allora sei masochista. Non è che ti metti insieme a un potenziale assassino, ma è che non sei attratta da un assassino. Cosa possibile pure, ma ti assumi la responsabilità. Ma cosa c'entra che le donne prima di mettersi con certi uomini devono pensarci due o tre volte? Eppure ti dico, Parenzo, continuo a dirti come ieri, che ti assicuro che tutti quanti quelli che chiamano, che scrivono, sostengono questa cosa, Parma, ammazzato dal tunisino di 27 anni, alla fine se l'è un po' cercata. Cioè, se ti metti con un tunisino pregiudicato, extracomunitario, irregolare, alla fine ti puoi aspettare che questo ti dà un colpo di mattarello e ti ammazza stramazzata sul pavimento di casa. Questo è il punto. E Marco la pensa più o meno così, diciamo la verità, o no? Mi senti? Ma la pensi così tu, che prima di mettersi con questo doveva pensarci 100 volte, Marco? Lo dico non io, ma Sallustio nel 2100 avanti Cristo, che ognuno è artefice del proprio destino. Vabbè, ma che c'entra artefice del proprio destino? Ma dai, su, le persone che scegli, e le donne devono fare una riflessione, perché di questi personaggi e di questi fatti oramai se ne vedono troppi. Evidentemente c'è stata un'evoluzione di costumi che non ha avuto una corrispondenza di certe mentalità. Michele, grazie. Sì, Michele, Marco, ciao. Michele Modena, vai, Michele. Ciao Crusani, buonasera. Dimmi. Ciao, io sono una delle vittime del salvabanche. Sì, quanto hai perso? Ma attualmente 30.000 circa con azioni Etruria. Caspita. 30.000 azzerati, no? Pazzesco. Di chi è la colpa? Al momento sì, assolutamente di Renzi. Perché? Di Renzi. Beh, ha fatto un decreto fuori di testa. Cioè, si poteva evitare l'azzeramento? Assolutamente. In che modo? Ma non era... Aspetta, fammi sentire. Sì, in che modo? Vediamo, certo. Perché... In che modo sono state già indicate altre strade, per esempio in questi giorni sul Sole 24 Ore da Romani, possibilità di far partecipare ex azionisti, obbligazionisti alle new bank, si sarebbe trovato. Vabbè, insomma, secondo te si poteva evitare l'azzeramento di queste obbligazioni dei piccoli risparmiatori, eccetera? Assolutamente. Quanti interessi prendevi tu, per esempio, Michele? Io interessi sinceramente non li avevo mai presi? Non erano obbligazioni secondarie quelle là di cui si parla? No, erano proprio azioni. Azioni, Banca Etruria. Ma noi stiamo parlando però di un'altra cosa, non avevi le stesse cose del pensionato, quello che si è ucciso. Ma infatti ti dico, in questi giorni qua l'attenzione mediatica è stata... Vabbè, ma tu hai perso le azioni anche... perché le azioni della banca valgono di meno, punto e basta. Sì, però, scusami Cruciani, in questi giorni qua la concentrazione mediatica è andata verso il pensionato. Sì, però già chi compra le azioni adesso non voglio dire un altro tipo di investimento, c'è già in un'altra logica, no? Dai, su. Cioè, un conto è l'obbligazione che ti dice ti diamo un garantito. Però il mercato ha le sue regole, ok? Se c'è qualcuno che gioca sporco. D'accordo, ma un'azione è sempre un'azione, sporco, quindi è sempre più rischiosa di qualunque altro, però sono anche i nani. Vabbè, Michele. Cosa c'entra? Scusa, se vai al casinò e punti sul rosso e ti dicono che c'è il blu, hai perso, cosa fai? Dici scusa, il blu non c'è. Ma no, ma ci mancherebbe altro. Però... Michele, sono due cose diverse. Salvatore da Palermo, dai, Salvatore. Pronto, buonasera. Dimmi. Volevo parlare di un'idea che mi è venuta stasera ascoltandola. Quando ho parlato con l'avvocato del signore che è finito che è finito nel cassonetto e purtroppo è morto. Signore, che giustamente molti penseranno che è molto probabile che sia stato un ladro, ma io ho pensato che quell'avvocato abbia chiesto davvero poco. No, però scusami, io non capisco come sei collegato. Giovanni da Palermo, dai, Giovanni da Palermo. Ciao Cruciani, ciao. Oh, bene. Ecco, si sente bene, dimmi. La Boschi ha dichiarato che suo padre è una brava persona, ma se fosse stato un delinquente cosa avrebbe fatto? Lì va applicata l'associazione a delinquere come per i mafiosi. Questi sono dei mafiosi, questa è un'associazione a delinquere. Ma chi è l'associazione a delinquere, Giovanni? Questi delle banche sostanzialmente che vendevano questi prodotti, che hanno truffato. Andavano a cercare, siccome erano affamati di soldi perché le banche erano decotte, andavano a cercare i clienti, cioè per spennarli sostanzialmente, per venderli della robaccia, anche negli ospedali. Come è uscito fuori oggi, anche negli ospedali. Ora però bisognerebbe individuare i colpevoli, non so che fare. Purtroppo in questo caso i reati è difficile anche individuarli. Che cosa bisogna fare secondo te, Giovanni? Impiccarli in piazza? Che bisogna fare? No, impiccarli no, ma applicare le leggi che in Italia esistono, e l'associazione a delinquere. Poi se è di stampo mafioso, poi lo vediamo. Perché qui... Sì, ma l'associazione a delinquere è fatta di persone, cioè i capi di queste banche che hanno dato istruzione di vendere, cioè gli amministratori delegati, i presidenti, che hanno dato istruzione di vendere questi prodotti rischiosi, dici? Perfetto, perfetto. Associazione a delinquere, per me, per carità, va benissimo. Se c'è il modo, ottimo. Poi un altro turno. Aspetta, fermo lì, ci sentiamo dopo il GR, ciao. La zanzara è come le donne, alcune volte potrà starti sui coglioni, ma quando non c'è, ti manca. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar ce l'ha con te questo. Ma no, ce l'ha con te. No, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a noi due. Che poi siamo noi due, Oscar Giannino e Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a noi due. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Digital Radio Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale. È vero? Certo. Con le trasmissioni in digitale, la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. In questi giorni di festa, regalatevi tutta l'informazione, l'intrattenimento e la passione di Radio 24. Buon ascolto e buon Natale. La Zanzara. So 393 71 71 701. Cruciani c'ha ragione. Essere vegani o vegetariani costa un sacco di soldi, è per i ricchi borghesi. Ho comprato un litro, neanche un litro, 75 di latte di riso, costava 4 euro. Porca puttana. Io propongo di diventare tutti veganal, carote e cetrioli nel culo. Avete rotto i coglioni voi, la carne, la lattuga, l'insalata, i pomodori, mangiate quello che cazzo vi pare, ciao. Caro David, Ti devo dare una notizia. Ti devo dare una notizia che ho una saputo. Notizia, un insider, sentiamo. Come si dice, no? Una un retroscena. Trading non c'entra niente. Una retroscena politico molto importante. Molto importante. Molto bene. Il retroscena politico importante è questo. Da fonti, diciamo, abbastanza sicure, non si è mai sicuri al 100%, neppure della persona che hai accanto. Cioè, se la signora Natalia Zevi ti racconta qualcosa, ti dice qualcosa, tu ci credi al 100%? Al 101%. No, dai, non dire così. Non si può mai essere sicuri, dai. Al 101%. Io non sono mai sicuro, mai, mai al 100%. Se la signora Zevi ti dice qualcosa, tu sei sicuro al 100% che è vero. Perché devi fare il cognome della mia compagna. Ormai si sa, che c'è diretta. Ma perché non ho capito, ma lo devi negare, né però puoi rinnegare. Assolutamente. Posso dire la signora Zevi come posso dire di tuo padre o di tua madre, di qualsiasi altra persona. Comunque uguale. Sì, no, no, comunque se mi dice una cosa, verifico. Verifichi. Sempre, sempre. Ah, piccole allora, non bonifiche. Sei sicuro nemmeno piccole, della Zevi, nemmeno della Zevi. Bonifichine nel telefono, spie, commissari cimici, le famose cimici in casa, capito? Allora, la questione è molto semplice. Deve sapere che è controllata. Ecco, questo ma come questo... si fa a controllare? No, no, no, questo è un concetto che vorrei passasse. Cioè, guarda, è sicuro. Libera ma sottomessa. Deve come libera sapere... ma sottomessa? Sottomessa. No. Deve, no, ti piace il termine? No. Deve sapere che c'è il controllo. Cioè, tu la fai controllare da amici tuoi del Mossad. Questa è la regola, non la regola, cioè, la tua che Mossad, fidanzata. La regola, no, ma la regola generale che vale per Mossad tutti c'ha più conoscenze lei che te. Cioè, la regola generale è la donna è libera, ma deve sapere che può essere tanata in qualunque momento, essere controllata Mamma in qualunque mia, momento. Che orrore, ragazzi. Il controllo genera sottomissione e quindi paura e quindi rispetto. Tu sai che ecco, io ho sempre avuto una repulsione proprio a pelle nei confronti delle persone che mi controllano. Cioè, recentemente mi è successo che una persona mi ha controllato il telefonino più volte. Io una volta ho detto: senti, vai fuori da casa. Cioè, vai fuori da casa. Sbattuta fuori di casa. No, sbattuta fuori, no, ma vai fuori da casa, sì, non fuori, mi rompere i coglioni. Fuori di casa, no, no, no, no, così brutalmente, perché poi alla fine sono meno odioso di quello che si può credere. Però è una cosa che proprio non sopporto fisicamente, il controllo del telefonino. Ma che ti frega, io non ho mai controllato il telefonino a nessuno. Cioè, al contrario di te che ti metti a... Vabbè, no, comunque, però siamo partiti da un'altra cosa. Mi devi sempre derapare, se mi sempre far deviare dalla strada maestra. Dalla strada maestra. Io stavo parlando di una notizia importante. Allora avanti, che è successo? Su. Comunali di Milano, candidato sindaco. Il centrodestra non sa chi candidare, in realtà nemmeno il centrosinistra, che però ha deciso di fare le primarie il 7 febbraio, dove molto probabilmente il signor Sala, ex capo dell'Expo, e la Balzani, vice sindaco di Milano, e forse altri ancora. Questo è il centro-sinistra. Il centro-destra è in mezzo alla cacca, perché in realtà Berlusconi ha fatto dei sondaggi, ha ricevuto qualche rifiuto. A un certo punto chiama il signor Pellegrini, che è l'ex presidente dell'Inter. No, Pellegrini, ex presidente dell'Inter. Sì. Non si capisce per quale motivo lo voglia candidare a sindaco di Milano, perché è un bravissimo signore, un bravissimo imprenditore, però secondo me inadeguato totalmente sia a comunicare che a fare politica. Comunque voleva candidare Pellegrini, ex sindaco di Milano, e attuale padrone di un'azienda importante che fa le mense, che fa il servizio mensa, per esempio anche qui al Sole 24 Ore, il signor Mense Pellegrini, no? In un sacco di posti, molto ricco, eccetera, eccetera, ha venduto l'Inter anni fa a Moratti, eccetera, eccetera. Pellegrini dice di no. Cioè, non mi va, non voglio farlo. A quel punto Berlusconi si rompe le scatole e dice: senti, sai che faccio? Chiamo un mio dipendente, il signor Paolo Del Debbio. Un suo collaboratore, dipendente. Ma io non lo dico, nel senso che è un dipendente di media. Un suo sottoposto. No, dipendente chiama, è il modo in cui i grillini chiamano, per esempio, i parlamentari. Non dico sottoposto, assolutamente no. Però è un dipendente di media, questo è un fatto. Io ammiro Del Debbio alla grande, c'è cioè un genio assoluto. Lo chiama, gli dice, però è un dipendente Paolo. Di Berlusconi. C'è poco da fare, è un dipendente di Berlusconi come il signor Brachino, come altri ancora. Allora lo chiamo: caro Paolo, senti, qui il problema è che se non ci sei tu perdiamo, ecco. Perdiamo. Che fai? Che vuoi fare? Adesso che lui possa dire di no per me è molto difficile. Per me è molto difficile. Cioè, anche tu perché, dici, non si può dire di no anche per lo scuole, questo è. Beh, ma soprattutto una persona che lavora così a stretto, così, che è un dipendente di media, se è difficile posso dire, però può darsi pure che dica di no, io non lo so, secondo me non dirà di no. L'altra notizia è che in realtà Berlusconi non è che avesse molto in simpatia, cioè, anche adesso, cioè, questa sua autonomia e indipendenza del signor Del Debbio, sicura, certa, certificata, non è che piacesse molto a Berlusca, cioè, lo considera anche, magari lo metto a fare il sindaco, diventa incontrollabile, cioè, non gli posso chiedere niente, perché è uno che fa, no, che ragiona con la sua testa. Però lo vuole il sindaco. Sto facendo, però bisogna vincere, e per cui gli chiede di fare il sindaco, vedremo. Insomma, la notizia è questa. Giovanni da Roma, vai Giovanni. Sì, buonasera a tutti voi. Io mi meraviglio che Parenzo riesca, cerchi di minimizzare il tutto. Quando sei martello devi martellare questa gente. Ricordatevi, Parenzo, ma chi dobbiamo martellare? Di cosa chi dobbiamo martellare? Giovanni, spiegami. Ma dovete l'argomento principale del giorno è la Boschi e le banche. Allora, sì. Quando si è trattato di buttare giù dallo scranno Lupi perché aveva preso il figlio un orologio in regalo, lo avete massacrato. Quando è cascato un muretto giù a Pompei, il ministro Bondi, l'avete massacrato senza pietà. Bondi, allora, non pietà... Bondi. No, ha detto giusto, Bondi. Allora, poi c'è anche il caso Idem, c'è anche il caso del ministro Idem, no? Che è stata defenestrata per un problema che aveva di pagamenti. No, ma della... indubbiamente c'è una... Per non parlare, Parenzo, mi faccia parlare, lei parla anche troppo, Parenzo. No, ma io le stavo dando ragione su una cosa. Con la sua voce? Con la sua voce da voce bianca, da evirato cantore, mi scusi, mi lasci parlare, Parenzo. Lei si chiama? Mi chiamo Giovanni, lei probabilmente è Parenzo. Faccia un outing, per favore. Ci racconti Giovanni che quando era ragazzo scavalcando una ringhiera ha avuto un'orrenda mutilazione. Ce lo racconti e faccia Giovanni, un outing. Giovanni, ecco, Giovanni da Roma. Allora, sì, no, adesso terminare. Ho capito dove l'ho conosciuta. Guardate, sì, ho capito. Sì, dove bravo, l'ho conosciuta? No, adesso ho capito bravo, dove l'ho conosciuta, Paruzzo, Giovanni da Roma. Ho capito. Caro Paruzzo, avete buttato giù dallo scranno anche la Girolamo per una cosa fumosissima. Avete. Adesso invocate sembra di essere blandi, di essere tranquilli, di Giovanni essere giù, ma che state dicendo? Bisogna martellare, a questo punto bisogna martellarli perché è successo. Giovanni da Roma ha avuto purtroppo un'infanzia difficile. Certamente, perché Giovanni lei, da Roma perché è stato violentato da bambino da un gatto. No, ha avuto un'infanzia molto difficile Giovanni da Roma, ma sì. Guardi, ha avuto e quindi la molto difficile ascoltando Giovanni lei, da Roma ha avuto questo problema e quindi sai, vabbè, giocava con parlare, un gatto. Dai. Giocava con un gatto, il gatto no, aspetta, con un artiglio. Aspetta, Giovanni, aspetta un Giovanni da Roma con un artiglio, il gatto gli ha strappato ciò che l'uomo ha di più caro. Non lasciare andare così. Fai tacere pure Unzo, no, fallo tacere. Si è offeso per il gatto. Mi dispiace dell'infanzia di però scusami Giovanni, no, qual è il punto? Secondo te perché la Boschi se ne deve andare? Ma perché c'è un conflitto di interesse mostruoso lì sotto questa faccenda. Beh, io però voglio dire, allora il problema è questo, o si accerta che i provvedimenti del governo sono stati fatti e anche hanno portato dei vantaggi materiali, concreti al padre della Boschi, oppure che sono stati fatti perché gliel'ha consigliato il padre della Boschi, o che comunque hanno salvato, tra virgolette, oppure cosa per ora non vera però. Cioè, per ora, per carità, oppure è un altro discorso. Sì, ma tu dal punto di vista formale e legale hai ragione. Io tu dici dal punto di vista politico, dici dal punto di vista politico, ma se quello lì è disgraziato, ha preso un orologio al figlio per la laurea e l'avete buttato. Sì, però c'è un fatto concreto lì. No, un po' diverso, c'era un fatto concreto che è piccolo sicuramente. Cioè, il ministro Lupi fece delle telefonate per presentare il figlio ad alcune persone che erano in affari. Anche un altro dato che avevano ottenuto degli appalti. Scusi, signor amico dei gatti di Roma, Giovanni da gatto da Roma. Vogliamo parlare delle telefonate fatte da qualche ministro di grazia e giustizia a suo tempo? No, ma che Renzi, che infatti si è dimessa la calcio. No, infatti, però certo. Ha ragione Giovanni che Renzi andare a casa che Renzi sia stato particolarmente duro quando non era primo ministro con alcune persone, compresa la cancellieri, compresa la Idem, compresi altri, e che volesse cacciarli, certo. Volesse cacciarli anche se non avevano fatto una mazza, questo non c'è dubbio. Che una volta diventato presidente del Consiglio, questa sua, come dire, questo suo giustizialismo sia ammorbidito. Ogni caso è diverso, però, come ragazzi, questo è un fatto, dai. Sì, ma ogni io non difendo la Boschi assolutamente. No, ma perché ogni caso è diverso. La Boschi sicuramente deve spiegare. Su questo non c'è ombra di dubbio. Però qualcosa Renzi deve si dire. È ammorbidito deve da questo punto. Giovanni ha ragione. Si è ammorbidito. Ragione, si è ammorbidito. Giusto, Giovanni? Scusi, non ho sentito. No, prima era molto duro Renzi quando si trattava di altri casi. Certo. Infatti, due pesi e due misure. Il doppio pesismo è sempre stato questo, no? Comunque io vi saluto, buona trasmissione ciao, a tutti ciao, e un saluto anche all'evirato cantore che la grazie. Bianca. Si ricordi del gatto che purtroppo le ha tolto ciò che c'è di più caro e quindi mi dispiace. Ma perché stai dicendo che Giovanni è stato evirato da un gatto? Gli hanno tagliati i coglioni, no, un gatto gli ha tagliati ho capito coglioni. Dove l'ho conosciuto, perché poi ho incontrato il gatto giorni fa da un veterinario e il gatto è rimasto scioccato per quel che non ha trovato, quindi che i coglioni di Giovanni. Dai, sì, Pasquale, Foggia, vai, Pasquale. Sì, buonasera. Vai, dimmi. Buonasera. Brevemente, sono promotore finanziario, faccio questa attività da 33 anni e ho trovato della gentaglia, della gente che per la brama di guadagnare 12-15% hanno perso, come si dice da noi, in cinze e capitale. Cioè, lei sta dicendo... Diffidare di chi ti promette facili guadagni. Per cui chi ha detto che sono dei coglioni ha ragione. Per cui sono d'accordo con te, Cruciani, nel definirli coglioni. No, io non l'ho definito coglioni, attenzione. Cioè, io ho letto un articolo di Massimo Fini che li definisce coglioni. Mi correggo allora. Vabbè, ciao Pasquale, ciao. Lei ha lavorato mai nella vita su... State ascoltando un programma offerto da... Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Oh Zanzara, che nella doverosa degustazione di un coniglio hai ridato la voce a ogni animalaro fiero, per intercessione di Radio 24, concedi a noi di godere la gioia della carne senza fine. Per Crux, nostro Dux. Amen. Niente, stasera pensavo di ascoltare la Zanzara, invece la radio ha deciso di farmi ascoltare Radio Maria, perché sulla vostra frequenza c'è Radio Maria, ragazzi. Quindi siamo al top. Tu ti rendi conto, no? Dovremmo fare una grande battaglia qui contro le interferenze di Radio Maria. Ma noi siamo il diavolo, scusa. Ma no, ma dai, su, lasciamo perdere questo argomento, sarebbe veramente da incazzarsi come bestie, Allora, siamo qui, ricordiamo sempre i numeri magici, 800-24-0024. Devo dirti la verità, Parenzo, ci sono dei... Per chi continua a sostenere ancora che la signora di Parma, massacrata, trascinata al piano terra dal primo piano, dopo essere stata massacrata dal marocchino di 27 anni, se l'è cercata, vorrei dire solo una cosa. Qui c'è un signore marocchino di 27 anni, extracomunitario, quello che volete, che ha distrutto la vita di una persona e voi ve la prendete con lei perché lo ha scelto, perché ci ha convissuto. Ma siete matti? Siete impazziti completamente? La seconda cosa è questa: voi che dite, beh, uno si deve scegliere le persone perché altrimenti si può aspettare cose di questo tipo, e giustamente uno dei meravigliosi ascoltatori che abbiamo tutti dal primo all'ultimo mi ha scritto una cosa, mi ha ricordato un caso di qualche anno fa in cui un primario ospedaliero, cioè un medico affermato, ha ammazzato la sua convivente o non so chi altro con 80 colpi di di bastone di mattarello, perché ancora qualcuno pensa di ammazzare le persone col mattarello. Beh, cioè, tra parentesi, esistono ancora i mattarelli, cioè, io non pensavo che esistessero più i mattarelli. Comunque, vabbè, 80 colpi di mattarello, capito? Un primario, certamente non sospettabile. Non è che uno ti metti col primario e pensi che ti possa ammazzare. No, e dai. Allora, uno mi ha scritto dall'Australia a proposito della vicenda dello zio Frocio e del nipote che fa il battesimo, no? Sì, il rifiutato, diciamo. Rifiutato, no? La presenza rifiutato dello zio come testimone, come si dice, come padrino, è stata rifiutata dal prete in provincia di Verona. Sì. Un tizio scrive: ciao Cruciani e Parenzo, se lo zio Frocio vi fa arrabbiare perché non può fare il testimone alla cresima del nipote, sentite allora questa. Io abito in Australia, ok? Mio figlio è nato qui, gli ho dato il nome Dylan, come Dylan Dog, con la Y, Dylan. All'età di 3 mesi stavo tornando in Italia per il battesimo, mia moglie è partita, poi io l'avrei raggiunta, ma il prete ha detto a mia moglie che mio figlio non lo può battezzare perché ha il nome Dylan, il quale non risulta a nessuno, non risulta come nome contenuto nel Vangelo. Vabbè. Sono tornato in Italia, ho rifatto il biglietto per battezzare Dylan in Australia, sempre la religione cattolica, ma il prete se ne fotte totalmente del fatto che si chiama Dylan. Vabbè, dai, Luca da Roma. Luca, pronto? Dimmi. Grande, allora volevo parlare degli animalisti. Allora, a me stanno profondamente sulle palle. Basta. Ogni giorno sentiamo animalisti. Vabbè, ma questo lo sappiamo, che mi devi dire di più? Allora, io oggi non avevo un cazzo da fare. Beato te. Studente di giurisprudenza. Beato te. vabbè, sì, a parte, solo oggi, tra la parentesi. Ma che fai? Non studi? Che fai? Quanti anni hai, Luca? Io ho 18 anni. 18 anni, ma farai qualcosa o no? Quando hai fatto la lavoro, matura? Sì, faccio il bagnino, poi vado a studiare all'università. Vabbè, tra parentesi. Vabbè, 18 anni. Sei un po' drogato di Zanzara o no? Beh, io ascolto tutti i giorni, sono iscritto al canale YouTube Zanzarolio Giuniti e la Zanzara an official channel. Beh, siamo al top assoluto. Vabbè, Luca, allora ma tu sei, ma veramente. Ma perché? Scusa, allora ho capito che c'è di strano. Ma devi leggere, leggere. Ma che legge? Cazzo, studio libri da 700 pagine, Parenzo. Vabbè, allora, cosa che Parenzo non ha mai fatto, no, peraltro. No, ma certo, l'ignorante Parenzo, però il lingua è no, no, io ho profondissima stima per tutti e due, cioè vi stimo tantissimo, quindi non ho nulla da dire. Vabbè, Luca, allora dai. Vabbè, allora, in pratica, guardo oggi il video di quando hai portato il coniglio in studio. Sì. Cazzo, Antonio Razzi, vabbè, un personaggio atroce, cioè nel senso mi piace da morire. Atroce o ti piace? Non ho capito. Atroce o ti piace? Tanto devo informare i signori animalisti che quel piatto che mi è stato cucinato, siccome non l'abbiamo mangiato tutto, è rimasto per una ventina di giorni qua in redazione, perché me l'ero completamente dimenticato. Ieri ho liberato la mia scrivania ed c'era una muffa che lo copriva completamente. Mamma con un odore mia. Di muffa incredibile, il coniglio pieno di muffa. Che cosa pazzesca. Avrei dovuto filmare tutta la scena in realtà, no? mi sono dimenticato. Vabbè, Luca, allora che vuoi dire? Dai. Guardo questo video e faccio: stasera mi mangio il coniglio. Sapete cosa sto facendo adesso? Che stai facendo? Sto cucinando un coniglio al forno. Sì, ma è difficile pure cucinare. Io non riuscirei a cucinare un coniglio al forno. Lo complicato. So, però sto vedendo le ricette su internet e quindi adesso lo sto facendo. Bravo, bravo, mi sento molto soddisfatto. Vabbè, Luca, ciao, Lucio, Milano. Vai, grande. Lucio, Lucio. Saluti. Dimmi, Lucio. Sono io, Lucio, ciao. Vai, dimmi, dimmi, Lucio, dimmi. Buonasera, signor Cucciani. Già la prossima volta no, non sento però, Lucio, alza la voce, dai. Ah, bene, bene. Allora, io volevo dirle che ho 65 anni. Sì. E 55 anni fa sono stato più o meno violentato da un omosessuale. Cioè, aspetta, fermo là. Cioè, tu hai 65 anni e quanto tempo fa? Però mettiti bene, che c'hai? Il viva voce, l'auricolare, cose di questo tipo, che c'hai? Ah, sì, sì, mamma mia, ragazzi, bisogna dire tutto cazzo. Vi siete scordate di dire le cose, figa. Dai, Lucio, dimmi. Posso andare avanti? Dai, dimmi, non so come ti sento, dimmi. Non sento niente, dai. Adesso sì, ti sento meglio, dai, dimmi. Grazie. Il signor Parenzo, due settimane fa, aveva sostenuto con un signore che aveva avuto più o meno la mia stessa violenza. Cioè, questo signore. Cioè, tu hai subito una violenza. Sì, io sono stato violentato da un omosessuale. Sei stato violentato da un omosessuale? Vabbè, violentato, punto. Da un omosessuale, sì. Che vuol dire? Allora si chiamavano pederasti. Sì, mi associo al fatto di quel consigliere di Savona che vuole giustificare quel prete pedofilo. Vabbè. No, le voglio dire una cosa. No, non ho capito il legame. Non lo so. Vabbè, sei stato violentato quando avevi 12 anni. Dunque? Il signor Parenzo ha dei figli? Sì, certo, sì, due. Sì. Bene, gli auguro al signor Parenzo che non gli possa succedere la cosa. Ma che c'entra? Scusa, non ho capito. C'entra perché quel signore di due settimane fa che aveva detto che bisognerebbe torturarle queste persone, non sappiate da voi le torture che abbiamo dovuto subire noi. No, ma io sono contro la tortura, non c'è, scusi, ho detto che sono contro la tortura. Cioè, nei paesi civili non esiste la tortura. Ma allora, signor Parenzo, perché questo signore qui che mi ha fatto violenza 55 anni fa oggi se la passa bene? Ma questo è un attimo. Aspetta, però, Lucio, perché questo qua è ancora in circolazione, questo signore? Penso di no, perché ai tempi aveva 50 anni, sono passati quasi 50 anni. Cioè, ma nessuno ha denunciato niente, lei non ha denunciato, le posso dire anche un'altra cosa, è stato denunciato, io l'ho ritrovato dopo due anni sempre al parco dove lui mi aveva prelevato e con l'alibi di una macchina che si chiamava allora la Bar 1000, mi aveva preso in macchina e mi ha fatto fare un giro. Dopo 20 minuti mi ha portato in mezzo a un campo e chiaramente mi ha molestato. Io sono scappato e sono rimasto in questo campo dalla sera fino a mezzanotte, gridavo come un pazzo e questo signore qui era scappato. Vabbè, ma i suoi genitori l'hanno denunciato o no? I miei genitori dopo due anni, chiaramente io l'ho dopo rivisto. Perché dopo due anni? Dopo due anni ho rivisto il pederasta che mi faceva violenza, che mi ha fatto violenza. Vabbè, ma lei che cosa vuole dire con questo? Non ho capito che bisogna. Sono andato dai carabinieri, i carabinieri chiaramente hanno denunciato la persona e poi purtroppo mia mamma, che era vedova con quattro bambini, si sarà senz'altro accontentato di qualche elemosina. Cioè il problema, ha preso dei soldi, il però il problema qual è? Che questo, dunque, questi qua che cosa ha fatto a questi? Vanno torturati, vanno soppressi, vanno uccisi, i pedofili, che cosa va fatto? No, lasciamo riperdere, lasciamo a un consigliere che addirittura lo appoggi, e perché è un prezzo. Ma quello è un altro discorso, ma tu hai detto che contesti a Parenzo che è contro la tortura, questi qua vanno torturati, sì o no? La tortura prescinde. Io mi metto nei panni di questo signore qui che ha chiamato 2 settimane fa, che capisco perfettamente la sua sofferenza, che dopo 50 anni... Lui torturerebbe il... o comunque vuole far torturare un pedofilo. No, non dico, diciamo la tortura no, ma la giustizia però dove sta? Che noi siamo vittime. E questi signori qui continuano a essere pederasti, allora si chiamavano pederasti. Vabbè, dipende, se uno li lascia liberi, non li denuncia e si accontenta di prendere i soldi, come ha fatto, come lei dice che sua madre ha fatto, è un altro discorso. Claudio da Modena, dai, cioè bisogna denunciare le persone, portarle in galera, poi se non ci vanno è un altro motivo. Se uno lascia stare è sbagliato. Claudio Modena. Pronto? Ma che c'è la tortura adesso, dai. Buonasera. Claudio. Sempre riguardo il ministro Boschi, sì. E il motivo per cui la Boschi dovrebbe dimettersi lo ha spiegato benissimo Maria Elena Boschi a Ballarò quando era in sta girando adesso su YouTube, è facilissimo trovare, spiega con dovizia di particolari che... E lei dice che al posto della cancelliera lei si sarebbe dimessa e la cancelliera doveva dimettersi. Sì. E spiega le ragioni. Però scusa, ma la cancelliera, per ricordare, fece una telefonata. Esatto, c'era un fatto preciso. C'era un fatto preciso. Contestabile, molto preciso. Aspettate un attimo, dovete ascoltare cosa ha detto la Boschi. Sentiamo, e facciamolo sentire. La Boschi spiega esattamente che la cancellieri metteva con questo suo conflitto a repentaglio il governo, tanto quanto quello della Boschi, metteva il governo e l'Italia in una situazione di imbarazzo. Io credo sia diverso il caso. Però è vero una cosa. È diverso. Allora, sai perché è diverso? Vabbè. È palese anche in è caso. Diverso semplicemente perché lì c'è un'azione di un ministro di giustizia che chiama una persona che è legata a un altro che è latitante, cioè un parente diretto. Okay? È un conflitto di interesse. Che mette chiama se qui governo. Non saltano scusi qualora qui saltassero fuori delle telefonate tra Boschi e il padre in cui si parla esplicitamente della vicenda della Banca Etruria del decreto del governo sarebbe diverso. Basta, no perché un po' sì, però vuole dire, io voglio seguire il discorso di Claudio. Claudio sta dicendo un'altra cosa, sta dicendo che c'è un imbarazzo del governo evidente, c'è l'imbarazzo, ovvio che c'è, lo dico io, lo dice la Boschi. Sì, d'accordo. Per cui la Boschi si deve dimettere, le spiega la Boschi. Sì, ma non è vero. Però oggi Renzi ha detto poco fa che, ad esempio, il suo governo è quello che ha cacciato il padre della Boschi dalla Etruria, dalla Banca Etruria. No, ma Claudio, ho capito benissimo. Esattamente, che il discorso che fa la Boschi è perfetto per la Boschi. Tanto quanto va bene, allora, è diverso. Andiamo a Bologna, Remo. Vai, Remo. Francesco, Milano, dai. Romolo, buonasera Giuseppe, buonasera Renzo. Allora, volevo farti presente la mia storia, che mi è successa una situazione molto simile a quel signore col figlio Dylan, soltanto che ho avuto una figlia di nome Giada, quindi un nome italianissimo. Ovviamente il prete ci ha fatto una cazziata pazzesca. Ma questi qua sono fuori di testa, ma non rompessero i coglioni. Uno può fare il padrino come vuole nelle cresime, può essere anche con le piume, Zanzara. Quindi volevo dirvi: non è Zanzara, è la chiesa. Succedono di tutti i colori all'interno della chiesa. Ma non c'è ma questo però non c'entra. Se il bambino deve avere un nome cattolico, ma uno che vuole avere il nome che vuole, dai, ho capito, ma poi dovrà avere un nome cattolico. Ma questo però, ma perché il nome cattolico? Mi fa ribrezzo. Allora, ma scusa, ma non ho capito. Ma se tu chiami, se tu avessi chiamato tuo figlio invece di chiamarlo Eli Nathan, o come diavolo si chiama, sì, se tu l'avessi chiamato Bubu. Che cosa sarebbe successo? Niente. Sarebbe successo. Che infatti, cosa? La comunità che cosa avrebbe fatto? No, ma non la comunità. C'è, ad esempio, in alcune, quando c'è una benedizione. Adesso, se vuoi, entro nello specifico. No, c'è una benedizione ebraica che tu puoi dare al bambino, Parenzo, scusi, Bubu qual è il nome ebraico? E dici, io l'ho chiamato Bubu. Ma perché dici, nome ebraico, per forza? Ebraico. Non c'è un nome ebraico. Ma io l'ho dato a tutti, a mia io figlia. Io voglio chiamare. Tua figlia si chiama Margherita. Dove no, è il nome ebraico? Ha anche un nome ebraico, mia figlia. Però sulla carta d'identità è Margherita. Invece. Ma certo, ha anche un nome ebraico, ma non mi pare un dramma. In diretta? Sì, dimmi. Ma non mi pare un problema, però. Dimmi. Cosa, cioè, non è un problema tuo se dà un altro, il secondo nome, se la chiesa chiede un altro nome, ma io non ho capito. Vai, Francesco, dimmi. Volevo soltanto chiederti, secondo te ce la faremo mai a liberarci di tutto questo bigottismo della Chiesa, o andremo avanti nei secoli dei secoli? Amen. Però chiedo scusa, se uno non, siccome non ti obbligano a far la cresima, la comunione e l'estrema unzione a X, siccome non ti obbligano, perché non è che ti obbliga, arriva il prete e dice devi fare la cresima, no. Ma per stare nella società civile purtroppo ma, non è ma chi l'ha detto? Ma chi te l'ha detto a te? Io non sono credente, io questa non è una stronzata, è una ragazzi, scelta. Però viene notata una persona che si distingue dalla società, viene notata, viene ma isolata. Che viene notata, ma guarda che non c'è scritto sulla carta d'identità cresimato. Vabbè, ciao, non c'è scritto, ciao, vabbè, ciao, la gente ciao, è matta ciao. Sai, oh, abbiamo con noi, caro Parenzo, un pericoloso criminale, un criminale incallito, un criminale incallito, signor Augusto Minzolini. No, ma che criminale, signor Augusto Minzolini, insomma, criminale incallito, sì, viene presentato. Ma quale criminale? Guarda che è incredibile, Minzolini è stato condannato per la questione della carta di credito a 2 anni e mezzo, adesso sì, è stato condannato a 4 mesi, una condanna sciocca, te lo dico io, stupido, a 4 mesi per... anche perché ha risarcito. Io ero il primo a essere, quando lui era potente, a essere così potente, a chiedere il processo, no, quando insomma aveva un ruolo, era potente, che cioè, a chiedere un processo. Mi ha restituito i soldi, ma non rompete i coglioni. No, adesso tanto gliel'hanno fatti restituire alla Rai, ma comunque questo è un altro appunto, discorso. È stato condannato anche a 4 mesi per avere spostato un presentatore follia di un telegiornale. Madre, 4 mesi. Questo è delirio. Un pericoloso criminale. Due condanne. Augusto! Sì, sono Diabolic. Eccolo, mettiti la mascherina, dai, mettiti la mascherina. Abbiamo un pericoloso delinquente. Però sei al di là degli scherzi, sei incazzato nero. Ma ti credo, poveretto. Sono incazzato nero, cioè, che me la prendo, cioè, immagini una cosa, nel senso, guarda, anche plasticamente. La persona per cui sono stato condannato a 4 mesi, Tiziana Ferrario, sì. Abuso d'ufficio, Tiziana sì. Ferrario. Cioè, praticamente ti dà l'idea che non può essere demansionata, perché è la demansionata da New York, perché lei sta a New York, e quindi non credo che sia un ruolo di demansionata stare lì. Già questo, perché sai, le immagini contano molto, sì. Ti dà un po' l'idea, diciamo, che c'è qualcosa che non va, qualcosa che storpia. Cioè, tu stai dicendo, ma quale demansionata? Cioè, sì, la signora Ferrario lavora a New York. Allora, il dimensionamento in Rai, cioè, significa che ci sono gente, probabilmente ne avrei sentito parlare perché sì, ne hanno scritto libri, che viene presa e viene messa dentro uno scantinato. Fortunati viene... dentro uno scantinato. Se sono sfortunati, addirittura non gli danno neanche la scrivania. Li tengono lì per anni. Pagati, sempre pagati da noi. Pagati, brava. Allora, lei per 10 mesi, nel senso che quando io decido, visto che prendo 18, assumo 18 precari, di cambiare e rinnovare le conduzioni, perché come tu sai, ma ognuno può fare quello che vuole, dai, da direttore, dai, ma qui c'è una stranezza, no, ma ti dico con molta franchezza, cioè in politica se tu lo sai mi vai a Palazzo Chigi, qui se per caso rinnovi vai, invece ti prendi 4 mesi Renzi della Rai, eri il rottamatore del TG, hai rottamato la Ferrario, diciamo la verità. Ma no, io ho cambiato e poi vabbè, ma adesso per dire, con un criterio, scusami un attimo, se per caso avessi sbagliato la Ferrario, e se ci fosse stato un criterio, diciamo, di emarginazione tra virgolette politica, la Ferrario sarebbe stata rimessa da chi mi è venuto dietro, prima uno e poi l'altro, in conduzione. Questi hanno mantenuto esattamente quelli che avevo scelto, cioè non è più tornata, non è più tornata in conduzione al TG1, dici? Al TG1 no, per cui di fatto il criterio utilizzato, cioè dopo è se stato la sono tenuta anche dai miei successori, è stato, si sono tenuti, sì, diciamo, quelli che avevo scelto io, il che significa che c'aveva una sua logica. Allora voi vi rendete conto, genere, adesso io ha ragione, su questo ha ragione. Vi rendete conto o no? Persino Parenzo ti dà ragione, io ma mi preoccuperei. Persino, Augusto, ma ha ragione, però. Però sì, infatti è quello che sta preoccupando, sono terrorizzato. Se volete dico che è uno stronzo che in appello ti danno 2 anni per la Ferrari, in appello ti danno 2 anni. Però la cosa è questa, la cosa è molto semplice, cioè il direttore di un telegiornale, o poi criticatelo quanto volete, nominato da Berlusconi, per carità, abbiamo parlato a lungo di tutte le cose che ha fatto Minzolini e non ha fatto Minzolini, gli attacchi, le cose, ci siamo divertiti per anni qui alla Zanzara con lui e anche senza di lui. Il punto non è quello. Sposta un conduttore, non è che lo caccia a pedate nel culo, ma addirittura gli propone una promozione, gli propone varie cose. Ad esempio, perché non mi mandi a New York? A me sarebbe bellissimo. Io non ti farei io, causa, che cazzo c'entro io? Mica Marisoni, perché Marisoni o Napoletano mi mandano a New York? Ma che c'è, mica sei dipendente tu, ma che c'è? ma lo stesso, prometto che non farò causa per demansionamento, se non mi metto. Io lo prometto. Comunque decidi di spostare. Qui. Cioè la gente questa prende una condanna per aver spostato una persona, perché in realtà dicono che era, capito, che pazzesco, che per abuso d'ufficio, perché per vendetta, perché l'ha spostata per vendetta ma politica. Vendetta di che? Ma che ne so io. Una volta per tutte questa storia di questa fu un errore di un mio caporedattore. Come fanno le persone che io conosco? Ma quale? Ah, la cosa là della Sì, di Milse. Allora, tanto per essere chiari, io l'ho coperto, ma tieni conto che era un titolo parlato, cioè non quelli scritti. Ma che la roba parlato, su la roba su Previti, che era? Su Previti, che era? No, era la storia della prescrizione. Ah, la prescrizione di Berlusconi, sì. Tutta quella, vabbè, ma che c'entra questo Tiziana Ferrario, scusa? Perché Tiziana Ferrario dice che io l'ho emarginata per questo, perché lei mi aveva criticato, mai sentito le sue critiche. Ma ha detto questo, lei tutta la, diciamo, la l'accusa si basa sul fatto che avendomi lei criticata perché io avevo fatto questa cosa, io poi me la sono presa con lei, ma a me non me ne fregava nulla. Io ho cambiato 18 precari. Tieni conto che io non ero iscritto neanche all'epoca. Vabbè, ma come la consideri tu sta Ferrario? Cioè, come la consideri? Una matta, sei incazzato nero con lei, con sta Tiziana, no, Ferrario? No, io penso che abbia, diciamo, si affetta una cosa che molto spesso capita ai Rai, cioè sindrome da video. Cioè, nel senso che c'è gente che il momento in cui va in video, cioè si innamora dello strumento e alla fine lo strumento va oltre, non è uno strumento giornalistico, è uno strumento, diciamo, che ti posso dire, che alimenta, cioè il se non conduci più al TG1 ti senti male, questo è il problema. Stai male, stai male. Cioè l'Italia è un paese, vai in depressione, vai in depressione. Cioè, lei è andata in depressione, secondo te è andata in depressione? Ma questo ha detto nel processo, è andata in depressione, tu l'hai mandato via, tu l'hai mandata via lei dice che questa situazione di demansionamento l'ha depressa. Conto che la prima proposta che gli avevo fatto, perché poi il demansionamento significa che non gli voglio fare niente, allora io la tolgo da lì e gli dico: perché non te ne vai 3 mesi a Mosca? C'era stato l'attentato. Sì, e lei ha detto di no. E lei ha detto di no. Io ho detto: tu fai questo, fai l'inviato, fai 3 mesi a Mosca, poi vai 3 mesi. Senti, ma quante persone ci stanno? Male, no, ma ho capito quante persone ci sono alla Rai che non fanno un cazzo? Augusto, dimmelo, allora, sinceramente, ora, secondo te, gente che non fa un cazzo alla Rai, quanta gente c'è? Sono tantissimi, ma detto questo, ti dico un altro. Tantissimi quanti? Quanti sono? Allora, non te lo so dire, perché. E poi ti dico che ci sono 972 contenziosi in questo momento in Rai, di cui l'80% è per demansionamento. Ma sì, ma ragazzi, ma dai, c'è gente che si deve abituare, che uno deve cambiare, dopo un po', uno ti può cambiare, non è che devi restare sempre a fare quella roba lì, puoi anche fare un'altra cosa, oppure c'è gente che dice: a me non mi piace, ti sposto, fai un'altra cosa, basta con ste puttanate, su. Scusa, dimmi una cosa, ma tu quante persone toglieresti? Se tornassi a fare direttore del TG1, non tornerei mai a fare il direttore del TG1, ti posso dire no vabbè, d'accordo, ma nessuno te lo farebbe fare, però. E io guarda, a me mi fa, sotto certi aspetti, anche se ho criticato, avvicina di più la bocca al telefono, se non si capisce una mazza, ma esprimo una solidarietà rispetto al nuovo direttore generale, perché se il nuovo direttore generale davvero vuole fare quella rivoluzione che vuole fare, deve stare attento, perché avrà un pacco di carte bollate, ma quello sempre. Che, ma allora lì il problema è, se tu vai lì, ma quante persone, quante persone bisognerebbe tagliare secondo te, che ne so, al TG1, alla Rai, il 30% dei dipendenti di meno potrebbe funzionare lo stesso? Sì, a voglia, 30%, 40, quanto? Ma io, guarda, questo non te lo so dire, ma mi sembra che c'è un numero non indifferente. Tant'è, cioè, al TG1 quante persone ci sono? 30% di giornalisti in più? Ci sono 170 giornalisti. Quanti se ne potrebbe fare a meno? 170. Guarda, non mi sa di dire. No, ma dimmi quante le persone. Una cosa. Dimmi quante. Ma io, nel senso che, se io immagino, diciamo, le altre testate, che prendiamo ad esempio quello che succede, diciamo, su Mediaset, cioè, credo che i redattori siano una metà. Cioè, dunque, si potrebbe fare meno del 50% dei giornalisti del TG1. Allora, lì ci sono 3 telegiornali. Cioè, ne basterebbe la metà, diciamo. Io dico 3 telegiornali da una parte e 3 telegiornali. No, vabbè, io voglio sapere una cosa, al TG1 ne basterebbe una metà o no? Sì. Ma certo, ma per forza. Ma io ti ho detto, secondo il problema, sai, che se per caso dico una cosa del genere, poi me ne arriva un altro, diciamo così. No, aspetta, che non te sei. Vabbè, dici, l'hai detto in pratica. Hai detto, che te frega? Tanto ormai che te frega. Ormai ti hanno condannato. Ormai sei il delinquente per antonomasia. Cioè, fra poco te cacciano pure dal Parlamento. Come Berlusconi. Decade, sì. Però alla fine parto da un presupposto. che quando tu hai ruoli del genere, la cosa peggiore è quello che tu vai lì e poi diciamo passi come se non ci fossi mai stato. C'è tanta gente che ha fatto il direttore del TG1 o ha fatto il senatore senza che nessuno se ne accorgesse. Allora, se io devo vedere, posso avere un riferimento. Dici, almeno ho cacciato la Ferrari. È che l'hanno cacciato. Werner. Se più vedi, diciamo che ci sono dei giornalisti che mettono, diciamo, ci mettono pure passione, perché per fare quella cosa lì ci devi mettere pure passione. Vabbè, aspetta, che mi devo fermare. Lo uso. E te ne freghi. Dai, ci sentiamo un'altra volta. Ciao. Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai. Questa trasmissione è massacra. La Zanzara. Morirà con questo sogno, invece creperà in trasmissione col suo collega stronzo come lei. Morirà sul lavoro. E la prossima volta evita di spiegarci come ti pulisci il culo, grazie. Cruciani, adesso hai raggiunto il mix perfetto. Con la dieta del dottor Lemme, la mattina spaghetti aglio e olio, a pranzo frittata di cipolla, la sera ti metti una bella suppostina d'aglio come consigliato dal professore Napoletano, il bidet già non te lo fai, mamma che culo la donna che esce con te la sera, come la invidio! Ogni volta che ti sento l'ormone a me va a mille. Buona serata. Cruciani, per poter battezzare o cresimare una qualsiasi persona, la Chiesa Cattolica ti chiede un certificato di battesimo e di cresima, quindi Parenzo per esempio non potrebbe battezzare un bambino nella Chiesa Cattolica. Studia, cretino! Cruciani, io te lo devo dire, sono un tuo seguace, per cui se tu mi dici stasera devi mangiare la cacca, e beh, io ho apparecchi. Qui siamo all'esagerazione, Parenzo, siamo bello, all'esagerazione. La parola seguace, come Boko Haram, come quelli della setta di no? C'è una setta di zanzarologi. Guarda, oggi ero all'area cantina sulla Berlino, a un certo punto mi saluta Chicco Testa, che era lì, mi dice, sai, sono minacciato da giorni da un esercito, che è l'esercito di Parenzo. Sì. Ma ha detto, dico, li conosci? Ma ti pare che conosca? Ma ha detto così, ma ha fermato, poi è arrivato un altro centinaio, il signor centinaio, simpatico anche della Lega. Come no, certo. Nonostante sia della Lega, persona molto per bene, simpatico, pettinato, insomma anche educato, perché dice buongiorno, buonasera. Ti stupisci che uno della Lega sia pettinato e educato, sai, non l'ho capito. Persona molto per bene. Sei veramente un razzista. No, dai, mi su. Sembra una persona per bene, molto, ho detto che è per bene, mica ho detto che... E mi ha detto sì, a me mi inseguono quelle della nave, le navi, la marina di Parenzo, mi hanno scritto, la marina. Ah no, quello... Cioè, quello è un altro che ha fatto la marina di... Cioè, ma tu ti rendi conto? Questa gente, ma tu ti stupisci, questa è la gente tutti, che ti dà da mangiare e rompi i coglioni. Ma che blocchi? Che usano cretino, impropriamente sei. Il mio nome, impropriamente. Ma, con la mia dovresti faccia. Dovresti essere onorato che qualcuno... Ma quelli pensano che sia io l'esercito, la marina, le cose, capito? Pensano che sia ma io. Ma chi lo pensa? Ma che dici? Ma che signor Testa che vai a trovare ma che cazzo te ne frega di quello che pensa Testa dell'esercito di Parenzo? Ma anche il buon centinaio, ad esempio, dice la marina di Parenzo. Ma no, ma la marina. Ma chi era? Ma che cos'è? Che roba è? Dai. Ma che... Comunque ti rendi conto? Ma che esiste la marina di Barisoni? No. Il collegamento era disturbato. Adesso richiameremo fra qualche giorno quando ci andrà il signor Minzolini. Però è veramente curiosa questa cosa qui. Cioè uno sposta alla RAI questo mostro assurdo che è la RAI. Uno sposta un personaggio che sta in video da non so quanti anni. La signora Ferrari, io manco la conosco, non ho nulla contro la signora Ferrari. Non me ne frega assolutamente niente di quello che ha fatto, di quello che fa e di quello che farà. Non me ne frega nulla. Assolutamente, cioè la sposta, le dice vai a fare altre cose, io voglio mettere in video altre persone, condannato a 4 mesi di prigione, ma ti rendi conto o no della follia totale? Certo, poi certo. Lasciamo perdere il fatto che Minzolini, Berlusconi è stato nominato direttore del TG1 per nomina politica di Berlusconi, come un sacco di gente alla RAI, non è che c'è solo lui. Questa è la situazione dell'Italia, che si sprecano ore e ore di burocrazia in tribunale per queste puttanate, per spostare un conduttore, un anchorman del TG1. Ma in altri paesi questo non succede, come non succede che ce la RAI mangiata dai politici, per carità. chi è questo qua da Venezia? Talbi, Talbi, signor Talbi, sarà sicuramente extracomunitario, musulmano magari. Talbi, Talbi, vai. Ciao, ciao, re della radio. Dimmi, tu sei lì, caro, a parlare di figa, porcaccia la puttana, non da parlare di politica. A noi, sinceramente, la politica non frega in cazzo. Questi discorsi di banda. Noi chi, professore, scusi, professor Talbi? Ciao, Paresso, noi camionari, ciao. Camionisti, hai sì. capito? Ma di dove sei, professore, tu, scusami, di dove sei? Io adesso parlo da Venezia, sono da Venezia. Sì, ma di dove sei Fordo originario, fratello, però, di dove sei? Fratello, sono il tuo paesano, sono tunisino. Io sono italiano, però comunque, sono italo-tunisino, attenzione. Per carità, nessuno mette in discussione niente, fratello, però voglio dire... Fratello, dove che stai portando? Che merci stai trasportando? Extracomunitari? Gente irregolare? Chi stai portando? Merce avariata? Che stai portando in giro per l'Italia? No, non porto un cazzo. Io porto ferro, porto pannelli, porto quella roba là. Ecco, non porto puttane dietro il rimorchio, magari. Se no lo trombo tutti, porca vacca. Signor Talbi. Ho capito. Crusciani, re della radio. Crusciani. Sempre re. Parlami gentilmente di Troia. A noi non ci interessa il cazzo politica. Va bene? Scusi, Talbi, volta te lo dico. Dimmi, lei si è preso la briga di chiamare la radio del Sole 24 ore all'800 24. Ma che gli frega questo canale del Sole 24 ore? Per fare questa riflessione. Che gli frega questo? Talbi, l'italo-tunisino. Parezzo, ti dico una cosa. Guarda che a me mi è venuta un'idea che dobbiamo candidare. Sì. Crusciani, sindaco di Roma. Crusciani. E magari lui metti Nappi il vice sindaco, hai capito? E io faccio l'autista magari. Lei è di fede, lei è anche di fede islamica o no? Cioè è musulmano? Sì, anche... sì, fede sì. E però sì. Ti piace figa, musulmano piace molto. Porca puttana, magari figa pelosa. Crusciani. Vabbè, questo però adesso il dettaglio è ininfluente. Scusa, è un po' come il mio fruttivendolo egiziano che gli piace la frutta con vitamina F, come dice sempre lui, è un po' uguale. Scusa, però. Sai che ti voglio bene, sai vitamina che ti voglio F. No, scusami, Talbi. Egiziano mi ha detto per amico Crusciani portare banana con vitamina F. Ma che banana, che frega, portami figa, patata, scusami, Talbi, la tua religione. Però si può dire che questo è un maiale? Posso dirlo o no? Si può dire che è un maiale, ma uno che chiama così è un maiale, dai, è un malato. È un maiale, il problema è che io non mangio maiale, attenzione, sono un maiale come Crusciani, identico, uguale, non mi lavo, così... trombo, non me ne frega il cazzo, però il problema è che non mangio maiale. Maiale sì, femmina, però cruda, porca vacca. Però scusami, questo è pazzo, non dai, sei, è un musulmano. Non un... sei il prototipo della religione islamica. Non sei il perfetto islamico, no? O no? Ma scusami, Dibo Crusciani, ma dai, anche gli islamici piacciono la figa, dai. Ho capito, benissimo, però in generale non c'è un rapporto anche Questo non lo so, insomma, non bevi vino lei? No, io non credo, io sono tutti musulmani, trombano come ricchi, porco cane. Sì, questo... D'accordo, però attenzione, tu sei. Quante mogli hai, signor Talbi? No, col coglione, no, mio una moglie sola, no. No. Si dovrebbe divorziarsi con la mia moglie che ha la mia età, io mi sposo un altro uguale alla mia età, non sposo ragazzina. No, ma fermati, non c'è una moglie sola. No, ma lascia per una moglie sola, però io non so se sua moglie. L'Islam prevede anche la cosa, no? Prevede la poligamia o no? No, Dio, a me lo so, una moglie sola da noi, almeno dove sono nato io. Sì. E sono qua in Italia, italiano, una sola. Una e sola. Gli altri sposano quattro, non so, ma sì. Ma scusa, ma tu tradisci regolarmente tua moglie? Mi pare di sì. Non ho soldi da pagare per trombare. Ho quattro figli, non arrivo neanche a fine mese, figurati se io pago la puttana. Non ne ho soldi. Ma ho capito, sgay, soldi, questo è stupendo. Mi dispiace di non poterlo fare. No, ma scusa, parla sempre di quello, ma allora è un discorso così teorico, virtuale, cioè in realtà poi le donne ti piacciono, ma non è che ci vai, tranne tua moglie, cioè sei fedele o no? Sì, ma se non ho soldi ti far trombare cosa faccio? Scusa, vabbè, non è che si deve pagare per forza, Talbi. No, sì, ma il problema di allora è... Ma non ho capito, perché bisogna... Talbi, adesso non ci addentriamo in questi discorsi un po' troppo complicati, però perché vorresti parlare solamente di figa qui alla Zanzara? Spiega. Mi piace la patata, porca vacca. Ma questo d'accordo, questo siamo d'accordo. Quello anche a me, anche a Parenzo, però adesso non è che bisogna parlare due ore e mezzo solo di quello. Ma parlami almeno mezz'ora, invita la dottoressa Nappi. Non è che possiamo fare ogni giorno mezz'ora la dottoressa Nappi, sarebbe la fine del mondo, dai. Un quarto d'ora, ti prego, dai, 10 minuti, dai. Però scusami, Talbi, vorrei... giorno io. professore, professor Talbi, vorrei capire la sua augusta opinione sulla questione di quel marocchino, dunque delle sue parti più o meno, anche se c'è una bella differenza naturalmente tra Tunisia e Marocco, che ha massacrato la sua convivente. Lei... un grande stronzo, un testa di cazzo, e lì bisogna anche di buono abbassonarlo a metà bassa. E io non sono contro di lui, solo tunisino, ma quelli che dicono, quelli che dicono che la signora se l'è cercata, che dici tu? No, la signora Bovaretta è andata di fiducia, lei pensava una persona normale, invece lui è un disgraziato, anche quello. Chi c'entra la signora, poveretta? Dillo a quelli, la signora, dillo, certo, a quelli, certo, che la pensano in maniera diversa. No, ha sbagliato, no. Vabbè, Talbi, dove sei adesso? Dove sei? In che zona d'Italia? Adesso sono qua a Venezia, porca puttana, sto andando verso Milano, poi a Vacca, tu non mi pare di dire. Ma che bisogno c'è però di condire la telefonata di queste espressioni? Questo la radio, non ascoltare parezzo, il mio cugino, per favore, a te, ti prego, Crociani, c'è la radio. Dimmi, cugino, no, però. Parla? Non ho capito. Che hai detto? No, cugino, non ho questi cugini io, però, perché sei cugino, ma se lui vuole essere tuo cugino, lo chiami fratello, lo chiami fratello. No, perché lui intende che, siccome gli ebrei musulmani sono cugini, diciamo. Ma che gliene frega lui degli ebrei dei musulmani? No, quello diceva cugino, quello diceva. Ma non me frega il cazzo, non me frega figa. Ma appunto, ma che gliene frega lui degli ebrei? Di religioni, noi vogliamo trombare. Ma tu non preghi mai praticamente? Faccio un cazzo, io dico. Non preghi? Ma non preghi? Non faccio niente. Allora, sei un musulmano. Beh, così. Che lei fosse un disgraziato si era capito. Ma sei un musulmano, no? Così, per modo di dire, cioè non è che sei un musulmano vero, dai, su. Insomma, dai, sono musulmano, via, dai. Dai. Comunque, perché la moglie è islamica, anche la moglie? La moglie è musulmana, sì. No, più religiosa, eh. Ma musulmana così, com'è che di si dice? Di dov'è la moglie? Dici qualche cosa, dici qualche preghiera in arabo. No, come fai a pregare tu quando preghi? Che dici? Secondo me non prega. No, la nostra preghiera non è dei musulmani, non è come qua. Dai, fammi una preghiera, dai. Ma preghiera, cosa vuoi, della mattina? Sì, quella della mattina. Boh, ti dico in arabo, loro cominciano così, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sì. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman ar-Rahim, Malik Yawm al-Din, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqima, sirata al-ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim wa ad-dallin, amin. Wa salatu wassalamu 'ala asrafil mursalin. Che cazzo vuol dire, scusami? E che cazzo sogno che mi... Ma vabbè, lo sai, no? Hai parlato in arabo. Sì, lo sai. Ma com'è che fa? Lo so. Quando uno si inginocchia davanti alla Mecca, che parole pronuncia? C'entra, lì parlano proprio, veramente fanno sul serio, no? Ma come si fa quando uno si inginocchia? Come fa? Come si fa? Allora, Akbar, si dici, Dio grande. E poi? E dopo leggi il Corano. Ma come fai? Leggi una, mettiti là come se fossi in preghiera. Ma non so leggere, ho letto tu. Mettiti per terra col tappeto. Ma coglione, sto guidando il carro, 300 quintali in mezzo sulla terra, vai figa. Sì, buonanotte. Ma metti questo intercalare. Ma guarda che è veramente abbassa. L'unico. Vabbè, ma proprio fissato e è malato. Malato di cosa? Ma quello lo sappiamo. Malato. Ma tu sei malato di figa, tipo tu. Sì, fermo. Ti faccio la figa, sei malato? Talbi, no. Aspetta un attimo. Allora, io ti dico una cosa. Fammi una preghiera bella in arabo, una bella preghiera, però quella anche musicata, quando ti rivolgi ad Allah. Non lo sa. No, ti dico la verità, pare che già l'hai capito, non lo so. Sul serio, a parte no, che ma lo sai, ma hai paura. No, che paura? Ma non paura. Hai paura. Io ho letto. Quello che sapevo, ti ho letto in arabo e ho letto giusto. Sai solo quello, ma sei un musulmano all'acqua di rose, ma che musulmano? Ma beh, scusami. Ma per te l'Islam potrebbe essere anche il buddismo, sarebbe uguale, dai, su. Potrebbe essere... Insomma, ognuno su religione, dai, ma tipo, il mio cugino che è ebreo, qual è il problema? Non è nessun problema. Ma sì, ma Tommaso, a te ti importa solo di una cosa, dai, la religione non te ne frega niente, solo di una cosa ti importa, dai, solo di una. Lo sai, solo di una, solo di una. Ciao. Ciao Talbi, ciao. Studia, cretino. La zanzara. Niente, io ascolto la sua trasmissione saltuariamente e sinceramente non ho capito a cosa lei serve. Mi hanno segnalato, gentili amici su Twitter, mi hanno segnalato messaggio che mi era sfuggito, mi era francamente sfuggito, della serie Le grandi inchieste della signora Natania Zevi. Le grandi inchieste. Scusa, no, mi hanno segnalato questa cosa con Twitter fatto dalla tua moglie, compagna, quella che è. Qualche giorno fa ad Agorà Rai parliamo del drammatico problema del parcheggio in Prati. Ma non ci posso. No. Vabbè, non capisco. Ma non lo so, appunto, mi domando se stava scherzando. Lo domando, ma spero. Ma che... certo, ma lei fa sempre tweet molto ironici perché è una persona splendida, sagace, innovativa. No, quindi, ma non è possibile, dai. Ma ad Agorà Rai parliamo del. Ma se tu vedi la conversazione fatta con il signor Pablo Rocas, eccetera. Vabbè. Perché no, sennò dai. Difami, ti becchi una querela per diffamazione, 40.000 euro, abbiamo svoltato, ti do l'opportunità. Beh, se svolti di con dire... 40.000 euro sei messo male, però dico. 40.000 euro, mica buttare via. Salvini ne ha 20.000 sul conto, sicuro, non posso svoltare 30.000, io, 30.000, appunto. Voglio dire, è evidentemente un tweet giocoso, come il suo stile, in cui giocava sul fatto. Ha un difetto con la signora Zevi, che difetto ha la signora Zevi? Avrà un difetto, no? Uno, ce n'ha un difetto. Che tra gli amici di Twitter ha Cruciani. Fa culo, va. No, non lo so, adesso lo diremo. Nelle prossime puntate lo diremo, magari, ma adesso devo pensarci un attimo. Minuto. Marco provincia di Bergamo, dai. Dove vai, sì, tu stasera? Proprio? Buonasera, Cruciani. Che mi dici, Parenzo? Non ho capito. No, volevo capire, dove vai tu stasera? Stasera vado a San Donato, vicino a Milano. Con tua figlia, che fai a casa? No, San Donato, Milano, dove intervisterò per un comitato di cittadini. Ah, bene, chi? Il ministro Padoan? No, chi c'entra Padoan? No, chiedo, figurati, c'è Padoan. Ministro Boschi, no, chi c'è? Sicignano, il prossimo presidente della Repubblica. Quello che ha sparato. Esatto, signor Sicignano. Cioè, tu passi la serata... del martedì? Sì, sì. Con Sicignano? No, con Sicignano, con i cittadini. Cioè cittadini. Tu anziché stare a casa, andare al cinema, mangiarti un piatto di pasta con un amico, sì. Fare due carezze quelle che sto in genere... Sto con Sicignano. Stai con Sicignano? Sì, signore rispettabilissimo. Pensi che ha essere sparato... essere una persona normale? Ha sparato... Ma è normale passare una serata con Sicigniano? Assolutamente sì, ha sparato giustamente a un ladro e probabilmente sarà prosciolto da questa accusa ridicola che gli era piovuta sulle spalle di domicilio. No, ma il tema non è questo. No, il tema è questo. Il tema è si può passare una serata col prossimo presidente della Repubblica? Con Sicignano. Col mio candidato alla presidenza. Ti dà l'idea della malattia mentale delle persone se uno passa una serata con Sicignano. Marco provincia di Bergamo, dai. Marco provincia di Bergamo. Non è normale. Sì. Vai. Buonasera. Dimmi. Parenzo. Cruciani. Vai, io chiamavo perché ho sentito la chiamata di lunedì sera dove c'era quel signore che aveva la figlia in casa che si prostituiva. Sì. E sono sollevate parecchie obiezioni se fosse vera o meno la telefonata. Sì. Io qua a Bergamo ho un vicino che fa un caso simile con la moglie che ha due figlie in casa. No, però attenzione, questo è molto importante. Tu dici di avere in provincia di Bergamo, cioè nella tua zona, un signore che fa prostituire chi? La moglie in casa? Faceva, perché adesso poi è finita un po' in modo tragico perché la moglie da diversi anni l'hanno ricoverata in un centro CRT, insomma, di recupero, perché e le figlie, una se n'è andata di casa che era giovane, l'altra che era più piccola purtroppo è rimasta lesa da questa situazione, tant'è che ha avuto dei figli, li hanno portati via. Vabbè, tu stai dicendo che fino a poco tempo fa c'era un signore che faceva prostituire la moglie in casa. Vabbè, ma... e lui era lì sul divano con le figlie e la moglie. Ma che ne sai tu? Che ne sai? Hai frequentato quella casa? Che fa? Se volete fare una scommessa, io porto le prove. Ma non c'è bisogno di portare le prove. Non posso dire. No, ma hai le prove, nel senso che hai frequentato quella casa, eri un cliente della moglie. No, io sono molto più giovane della moglie, io ho 40 anni, la moglie da 20 anni più di me, poi sono lontani parenti miei, quindi ecco perché sapevo questa situazione. Ah, lontani parenti, esatto, quindi lungi da me andare a avere una situazione del genere. Va bene, ciao. Però, caro, purtroppo è vero, cioè ci sono situazioni di questo tipo, infatti io non avevo il minimo dubbio. Ciao. Allora, Giorgio da Roma. Buonasera, ciao Cruciani. Ciao, dimmi. Parenzo. Ciao, caro, dimmi. Grandissimo Cruciani, però hai detto una cazzata storica, però era Ferrario. Dimmi. Dice che deve cambiare, deve cambiare, ma tu da 10 anni fai questa trasmissione. Sì, sì, è vero, ma non c'entra niente, a parte che io là, dico. Sì, sì, è vero, ma io cambio, nel senso che cambio, non mi sento di fare la stessa cosa perché la radio si rinnova ogni giorno. Ma io non volevo dire palle, ma sono d'accordissimo. No, ma Giorgio, è una critica giusta, me l'hanno scritta, me l'hanno anche scritta, no, scritta certo. In questi giorni tu stai facendo una trasmissione da quasi 10 anni e dici che bisogna cambiare e poi alla fine non cambi mai. Giustissima obiezione. No, però guarda, è la Rai che non cambia, perché nelle altre televisioni ragazzi, si cambia, cioè già basta Sky. Una cosa del genere fa ridere. Ma fa ridere. Cioè se una viene rimossa dal video a Sky, se uno o una viene rimossa dal video a Sky, non farà mai causa per demansionamento. Ma probabilmente può anche farla, perché le leggi in Italia sono leggi di pazzi. No, ma non ce l'hanno neanche nella testa. Questa era un po' la testa, diciamo, vecchio stampo di quelli della Rai. Ti voglio dire un'altra cosa, però il popolo della zanzara c'è. Perché io 2 giorni fa ho fatto un incidente, perché stavo sentendo la zanzara, piccolo, piccolo. Sì. Ragazzo è sceso, gli ho detto scusami tanto, ha visto la botta, no, non è niente, e sentiva la zanzara. Ho detto sei un grande, perché un altro mi avrebbe rotto le palle 3 ore, avrebbe detto ma hai rotto la macchina, ma l'hai graffiata, ma l'hai distrutta. Quindi c'è il popolo della zanzara. Cioè ti abbiamo aiutato a risolvere una situazione potenzialmente pericolosa. Bravissimo, solo persone intelligenti, veramente grandi, sì, bravo, potenzialmente pericolosa. E lui sentiva la zanzara come me. Beh, detto, no, non è niente, guarda. Sì, siamo al top assoluto, sì, a me non piace lo sbrodolamento, però in questo caso mi fa piacere. Ciao ragazzo, ciao. Caro Parenzo, abbiamo con noi uno dei protagonisti di una storia che abbiamo raccontato in questi giorni. Sono veramente, veramente molto contento di accogliere qui, tra il popolo della zanzara che avete appena ascoltato, la persona omosessuale che non può fare la cresima con il nipote perché il parroco del suo paese glielo ha sostanzialmente vietato, perché di questo si tratta. Si chiama Rosario Barbera. Buonasera, buonasera. Ciao Rosario, quanti buonasera, anni hai, Rosario? Io ho 50 anni. 50 anni, sei convivente, sei omosessuale innanzitutto da, cioè, nel senso da quando non si può dire, perché da quando non è che è come diventare capitano dei carabinieri. Però, insomma, ho preso consapevolezza a 16 anni. A 16 anni, e convivi con uno, col tuo compagno? No, che fai? Questa è una cosa che è stata scritta anche sul giornale sbagliata. Io ho un compagno da 6 anni, ho fatto una famiglia anagrafica, perché è l'unica cosa che si può fare in Italia. Che vuol dire però, hai fatto la famiglia anagrafica? Mica è possibile farla in Italia. All'anagrafe avrà registrato che convive con questa persona, cioè ha scritto che a casa sua vive con questo. Vabbè, non serve a niente dal punto di vista pratico. Diciamo. No, ma come ho fatto, guarda, io con mia compa uguale? Cioè, No, si ha qualche piccolo vantaggio, certo. Tipo, non so, quando io sono a casa sua non posso ritirare la posta, posso assisterlo all'ospedale, cioè... Sono piccole cose, però siamo una famiglia. Che il paese come si chiama, scusa? Il paese del mio compagno si chiama Montagnana. Montagnana, cioè voi non vivete insieme? È vicino a Padova, Montagnana. Per ora non viviamo insieme, perché per ora io lavoro in provincia di Vicenza e lui lì è verso Montagnana. A Montagnana, quindi, lui quanti anni ha? Solo per lavorativo, lui ha 10 anni meno. 10 anni meno, 50-40. Coppia, vi amate, vi tradite ogni tanto, no? No, ancora no. Cioè siete una coppia come gli eterosessuali, cioè funziona esattamente allo stesso modo, no? Sì. Ma io lo so, è per spiegarlo, figuriamoci. Io so che le stesse dinamiche esistono anche tra coppie omosessuali, cioè gelosie, tradimenti, possesso, no, forse in alcuni casi c'è un po' più di libertà dal punto di vista sessuale, dico io. Ma questa è una fandonia, una grande, secondo te, una fandonia. Dirlo in Sicilia è una grande minchiata. Una minchiata. Senti, ma tu a 16 anni eri in Sicilia quando hai, diciamo, come dire, scoperto la tua omosessualità, l'hai subito riferita ai tuoi? No, io quando avevo 16 anni ho preso consapevolezza, perché sono innamorato del mio compagno di scuola, ma dopo un anno io ero fidanzato, figurati, e lo dissi subito alla mia ex ragazza, e lei mi accompagnò da un'amica che studiava. Cioè tu stavi con una, poi, però hai scoperto, insomma, che ti piacevano i maschi, diciamo la realtà. Sì. E questa che ha detto, come l'ha presa? L'ha preso non bene, però sono stato, diciamo, molto fortunato, perché mi ha portato da una sua amica che studiava all'università ai tempi, psicologia. E lei mi tranquillizzò, perché ero molto terrorizzato, molto spaventato. Beh, insomma, ti ha portato allo psicologo, non è che ha fatto una grande in teoria. Come cacchio, anziché sputtanarmi o mandarmi, portato allo psicologo come se dovessi essere curato per qualcosa. Comunque, non è che mi ha portato da una psichiatra, ma ha portato da una psicologa, una ragazza che studiava psicologia. Sì. e lei mi tranquillizzò. Ma insomma, mi dice, tuo padre quando l'ha saputo, che reazione? Due volte gliel'ha detto mia madre. Gli ha preso un colpo, è caduto per terra. Non lo so. Infarto, che città era in Sicilia, scusa? Trapani. No, mio padre l'ha saputo quando già eravamo qua su, che noi da 27 anni che abitiamo nella. Gliel'hai nascosto. E gliel'ha detto mia madre. No, nascosto, non l'ho mai detto. No, non mi sono mai nascosto. Però non l'ho ostentato. Non l'hai mai detto a tuo padre, diciamo. Fino a quando, che età l'ha saputo tuo padre? Mio padre l'ha saputo 27 anni fa. Cioè, quando tu ne avevi 23, eri già grandicello. Sì. Vabbè, ma insomma, ha avuto una reazione negativa. Ha detto: non me ne frega niente, se devi essere felice. No, mio padre mi ha detto una cosa che non me l'aspettavo, mi ha detto: l'importante è che tu sei felice, e io me lo farò piacere anche a me. Ma certo, ma questo è numero uno, tuo padre, assolutamente. Sì. Senti, allora andiamo al sodo della questione. A te ti hanno vietato di fare il padrino a tuo nipote, questa è la sostanza. Sì, anche se aspetta, non è nipote, è un cugino, però siccome lui è molto piccolo, da piccolo mi chiama Zione. Zione è rimasto lo Ma lei, Rosario, è un cattolico praticante, immagino. Non so se sono cattolico, credo cattolico, in Dio. È cattolico, però lei sa bene che per fare il padrino alla cresima, come per fare il testimone religioso a un matrimonio in chiesa, ci vogliono, ma non è la mia. Per mio... esattamente. Però aspetta, andiamo per ordine. Io voglio capire, tu hai fatto il padrino altre volte? Sì, l'ho già fatto. Quante volte? 5 volte. Cioè, capisci? Ha fatto il padrino 5 volte. Perché qui ha avuto la ingenuità di confessare quando il prete glielo sapevano, ha chiesto. Lo sapevano i preti con cui... Allora, nell'ultima volta che sono stati, è successo 5 anni fa, che ho fatto padrino di cresima, il prete lo sapeva. Lo vedi? Cioè... Però, siccome, allora, io sono andato alla curia di Verona, ho telefonato alla curia di Vicenza, allora, mi hanno detto, semplicemente, che è a discrezione del prete. Il prete di 5 anni fa che mi ha fatto fare il padrino mi ha detto: io sulla tua moralità sei una bravissima persona, hai una moralità limpida pura, quindi perché non devi fare il padrino? Poi la mia vita privata, se sono gay, se sono etero, se sono quello che sono affari tuoi. A lui non gli interessa niente. Lui mi ha detto: io ti conosco da anni, perché è un prete che mi conosce da anni, so che la tua moralità è limpida, quindi perché non devi fare Dov'era il padrino? Questo qua? Dov'era questo? Diciamo in Lombardia, dai, non diciamo il paese. No, vabbè, per dire. Vabbè, però a me non stupì, adesso voglio dire. No, però è l'interpretazione del non so di che cosa, delle regole del San Gelo, di non so di cosa, di persona. Evidente, no? Ma non ha fatto un'eccezione, è un prete ragionevole, di cui non fotte nulla delle tendenze sessuali o se a Rosario piace un uomo o piace una donna. Questo è il punto fondamentale, o se convivo con un uomo o con una donna. C'è il bambino che vuole Rosario come padrino e quel prete lì, scusami l'espressione, Rosario, so che non ti appartiene, ma appartiene a questa trasmissione, quel prete lì non dovrebbe rompere i coglioni. Invece che cosa ti ha detto quel prete? Spiegami. No, allora il prete a me non mi ha detto niente perché non mi ha voluto incontrare. Il bambino ha 25 anni, il cresimando, non è che è un bambino, perché ci conosciamo veramente da una vita. A 25 anni? Lui... Che fa la cresima a 25 anni questo? Sì, è solo tutta una cresima, sono tutti cresimandi grandi. Sì. Perché ci sono alcuni si devono sposare, cosa allora, farlo anche a 50 anni, anche a 80 infatti non c'è età. Allora lui, siccome quando ha iniziato questo percorso lì in chiesa, mi ha detto: io voglio che tu sia il mio padrino. E basta, ma guarda, a me non mi interessa quello che sei tu mi hai cresciuto, siamo cresciuti insieme, ti voglio bene, so che sei una persona in gamba, basta. E il prete invece gli ha detto? No, il bello è che il prete ha iniziato il discorso. La cosa è successa manco un mese fa, 2 settimane fa, quando lui senza conoscere mi ha detto: allora, se i padrini, come sono sti padrini? Allora il mio cugino ha detto: guarda, il mio padrino è gay. Cosa? Pensavi di tenermelo nascosto? È una cosa impossibile. Allora gli fa: ci guardi Don Antonio, perché si chiama Don Antonio il prete, ci guardi Don Antonio, che io non è che ho scelto lui a caso, lui mi ha cresciuto, ha una moralità di fede, è una bravissima persona, io voglio il lui prete? Non nella maniera più assoluta. Allora lui si aspettava che mi diceva: senti, portami sto padrino e ne parliamo. Niente irremovibile. Niente. E poi ha preso la scusa che tu saresti convivente, cosa che non ma è vera. Attualmente non convivo vivo con per mio cui compagno, è solo una scusa per lavoro, sì è solo una scusa, però ormai basta, perché sennò lui l'altro giorno l'ha chiamato, gli ho detto quando è sto quando è sta cresima sabato. Adesso riprendiamo il discorso, no, per carità, Barbè, sì, Rosario, riprendiamo dopo la pubblicità, abbiamo qualche minuto di pubblicità e chiudiamo questa vicenda che è vergognosa, vergognosa, perché soprattutto nell'anno del giubileo della misericordia, di cui a me non fotte assolutamente nulla, però il giubileo della misericordia, un signore vuole fare il padrino al nipote, chiede al prete, il prete dice: oh, giammai è gay, vergogna. Sei un terrorista radiofonico, è una verità. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Io per tradizione il venerdì santo mangio una bella fiorentina e me ne fotto. Io non sono vegano, impazzisco per questa canzone. Divento pazzo, sai che molte persone mi hanno già chiesto, Parenzo, la suoneria, vogliono metterla come suoneria del cellulare, forse lo farò anch'io. Non ho mai avuto, no, non ho mai avuto una suoneria di cellulare in vita mia, di queste qua, no? Con un, associata ad un numero, una suoneria strana mia. Forse per la prima volta, per la prima volta metto la suoneria. Ma è un annuncio clamoroso. Però stavamo parlando molto seriamente con Rosario Barbera, omosessuale, ma questo è indifferente, però in questo caso conta, è come se conta. E che fai di mestiere, Rosario? Scusami. Io sono collaboratore scolastico ed educatore. Bene. Collaboratore scolastico ed educatore, cosa insegni? Io insegno comportamento, sono in un istituto privato dove ci sono dei ragazzi che hanno avuto violenze e noi diciamo li abituiamo di nuovo a stare in mezzo ai grandi. Nessuno si è mai lamentato perché assolutamente sono 10 anni che lavoro della tua omosessualità, ma che tipo ma nella maniera più assoluta allora chi si deve Rosario, no, ma che ne so, in Italia può succedere di tutto, per carità. Allora Rosario Barbera è colui che non può fare la cresima con i nipote, cioè non può fare il padrino la cresima con i nipoti. Però non è un caso internazionale, cioè la Chiesa ha i suoi, secondo me adesso con tutto scusate un attimo, io quando sono finisco qua, perché quando sono andato in curia mi hanno stampato i requisiti, perché li ho letti anch'io i requisiti, sì. Allora? Nessuno parla di omosessualità, la cosa importante è la moralità del padrino o della madrina, c'è una cosa, una clausola ben precisa, che chiunque convivente, etero, uomo che sia, non può convivere. Allora se convivente ok, ma se per esempio uno è separato e non convive, per fare il padrino. È una cosa molto articolata. È una contraddizione, quindi, dici? Che è una contraddizione. Però non c'è. Credo, non so. No, è proprio. Ma chi farà adesso il padrino? Il convivente, la madre. La madre com'è? La madre che. No, la madre, oltretutto, che nei requisiti c'è scritto preferibilmente non dovrebbe farlo un parente stretto, soprattutto i genitori. Quindi lì il prete chiude l'occhio. A me invece non la chiude. Perché la cosa era. Ma la madre com'è? Convive. No, sta con il figlio. Cioè è separata? E diciamo che è separata di fatto, ma non legalmente, perché. Però è separata di fatto, cioè capisci la contraddizione. Sì, però legalmente no, quindi per loro va benissimo. E tu ci vai sabato al battesimo? Io ci vado perché voglio stare vicino a lui, però non so se non mi siederò vicino a lui, perché c'è molta attenzione. Allora, poi c'è un'altra cosa. E ci parlerai col prete o no? No. Perché il prete non mi vuol vedere, il prete. Allora, l'ultima, questo è un aggiornamento di domenica. È assurdo, lo so. Ma guarda, finisco qua la cosa. Se lui, il prete, accettava di parlare con me una volta, la cosa si sarebbe chiarita lì. Ma non lo so, perché c'è gente. Io non convivo, quindi io rispetto, cioè, se ero convivente, ok, io o etero, omosessuale, non posso fare il padrino. Ma io non convivo. È già un'altra follia questa, che il convivente. No, non è così, cioè, no, il requisito è questo. Vabbè, Beh, ma è una follia, posso dire che è una follia o no? Vabbè, però sai, è il requisito, uno dei requisiti che ci vuole per fare il padrino. Vabbè, quindi, lo so, è una cosa. Ma però ci sono i preti pedofili, ci sono i preti pedofili e rompono i coglioni. Ma scusa, questo non c'entra niente. Ma vedi che anche lui te lo dice, non c'entra, cioè il rosario. I pedofili non c'entrano. C'entrano sempre i preti pedofili. No, no, no, però nei requisiti, io entravo in tutti i requisiti perché io non convivo. Quindi, dunque, lui è un pregiudizio per il fatto che sei gay. Sì, dai, dai, questo. Sono gay, sì, sì. Non è un pregiudizio. Ma questo qua che è, ma la farà lui la cerimonia o no alla fine? Sto no, perché il prete, diciamo, l'ultimo aggiornamento, verrà trasferito. Ah, e come mai? Come mai? Quello là, diciamo che è stata una goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché è stato già oggetto di altri episodi di rigidità o di, insomma, omofobia. È stato molto. No, no, omofobia no, comunque i parrocchiani del paese sono lamentati e quindi già c'è, da due domeniche c'è già un altro prete, cioè, lui lo trasferiscono. Andando. Sì, lo trasferiscono. Vabbè, ciao. Poi Rosario, a presto, ciao, ciao. Abbracci, saluti, vai, saluti. Vai là e fai un casino sabato. No, no, no. Senza scomodare tuo nipote, senza far casino, però qualcosa bisogna fare, o no? Vabbè, no, ma l'ho già fatto, già sono usciti gli articoli, ho parlato con la curia, il mio posto è di stare in silenzio, in chiesa, però lui lì con sua madre, io starò per i fatti miei, perché non è giusto. Ciao, okay, ciao Rosario, ragazzi, ciao. Grazie a voi, ciao. Ciao, grande. Ciao, caro. Allora, caro Parenzo, abbiamo Giacomo da Torino. Vai, Giacomo. Sì, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Ciao, ciao. Di che mi vuoi parlare? Allora, ti voglio parlare, Cruciani, ascolta, perché io ti seguo sempre, ma questo discorso del fatto di gay e etero, adesso bisogna cercare di dare... Ma di che cosa vuoi parlare? Di gay, di etero, transessuali, che cosa? Io sono frocio, quindi parlo di frocio. Ah, sei frocio, ma stasera andiamo al festival qua. Stasera nello specifico di transessuali, perché io ti ho sentito qualche settimana fa dire che chi va con i trans non è assolutamente frocio. Sì, io riportavo una dichiarazione, insomma, un'opinione della signora Vladimir Luxuria, la quale dice... Ma siamo a columnist di eccezione qui, proprio. Vabbè, certo. che male ha fatto, signora Luxuria, scusa. No, no, va benissimo. Insomma, molto intelligente, che vale molto di più di molti editorialisti italiani. Ma benissimo, la quale ha detto, gli uomini che frequentano i transessuali non sono gay nascosti, l'omosessualità ama la mascolinità, invece i trans sono molto femminili. Che cos'è che non va in questa cosa? Citare femminile un trans che ha 20 centimetri di minchia in mezzo alle gambe, cos'ha di femminile uno che ha 20 centimetri di minchia? Aspetta, no, per esprimere meglio questo concetto, avvicina di più la tua gentile bocca. Sono attaccato al telefonino, guarda. Stai dicendo cosa può avere di femminile un trans uno che ha... Uno che ha 20 centimetri di minchia, ma scusami, se tu sei etero e vai così, con un trans, professore. Il trans, per carità, ha le sue belle tette, ok? Sì. Ma c'ha anche 20 centimetri di minchia. Questo, l'ha ripetuto chiaro il concetto. Per toccargli le tette, tu lo senti che gli diventa duro. Cosa c'è di femminile? Scusi, professore, c'è un ascoltatore, uno che può ad esempio citare l'articolo di Zingales di domenica sul Sole 24 Ore? C'è uno che anziché chiamare a questa radio può dire: guarda, ho letto l'articolo di Zingales sulla questione della banca. Giacomo non gli interessa. Può uno citarlo? Uno solo? Aspetta, fammi sentire Giacomo, che è più interessante. Dai, onorevoli Pompini, da quando ho 15 anni, va bene, ne ho 32, quindi è un po' di anni che io sono pratico del settore. Perché sarebbe come dire che se io sono etero, ci tanto andare con un etero, ma che cazzo c'entra? Io sono con un trans, si arrabbia, sono pure gay, si al massimo calora. Trovo eccitante un etero perché è maschile, ma non trovo eccitante un trans con 20 centimetri di minchia e una quinta di tette, perché se tocco le tette vomito, capisci il discorso? Ah, tu vomiti se tocchi le tette? Ma che schifo, Cruciani, ma per favore, io voglio toccare i pettorali di un maschio, voglio che mi scatarra in gola dopo che fuma e mi bacia, non voglio toccargli le tette, ma scusi, Giacomo neanche da Torino, città, peraltro, ma io non capisco come uno che ha vissuto nella città dei fratelli dove sono passati, che sono personaggi del mondo liberale, no? Della storia, ma che della tradizione questo? Liberale. Ma questa è la libertà, questa è la vera libertà. Okay. Avrebbero Torino, questi personaggi che dici tu. Sono scopata tutta, perché sono la più grossa troia che tu possa conoscere nella tua di Torino. Vita. Detto capito. Questo, facendo uno anche genere, l'autista, ho modo di Valletta, conoscere diverse la marcia persone. Dei capito? Cioè, ma voglio dire, aspetta, no. Fermo. Sì, questi qua, sì, quelli che si sono battuti per la libertà, si sono battuti anche perché Giacomo potesse in radio raccontare la sua vita. Questa è la realtà. Che tu lo voglia, Parenzo, o no? Che ti piace? Ne sono orgoglioso. Quelli che si sono battuti per la libertà, la Torino, diciamo, della libertà, si sono battuti anche perché Giacomo in radio, nella radio di Confindustria, potesse raccontare la sua storia, cioè quella di un gay, diciamo, di anche se giovane, di lungo corso, così possiamo dire, di lungo corso. Possiamo dire così, ma, certo, no, possiamo azzardare. Posso, se posso aggiungere una cosa, Cruciani, molto perché molto dici che a Torino ti sei scopato tutti? Questa è una cosa un perché, po'... Perché io, allora ti spiego, io organizzo fetish party, quindi sostanzialmente organizzo... Fetish party. Della roba che hanno a che fare con i maschi, de porcate, tipo... Guarda, portanto l'ormai l'orario è passato. No, fermo. Lasciamo il mistero. Cose particolari. Fetish come party, potrebbe vabbè, essere sì. Giochi con l'urina. Mettiamo vabbè, adesso. Giochi con l'urina. Vabbè, poi vabbè. Uno si stupisce perché queste storie non trovano albergo non sono le 24 ore. Al top level. Non puoi immaginarti una donna che fa questi giochi. Questi giochi li puoi fare con un maschio che ti arriva bello, cazzuto, muscoloso. Giochi, ma di che parla? Ma che porcheria! Ma fa schifo. Schifo, aspetta, ma cosa c'entra? Aspetta, ma fa schifo, aspetta, stai giochi, zitto, no. Perché fa schifo? No, assolutamente ma no. Ma perché fa schifo? Sei tu che sei chiuso, Parenzo. Aspetta. Non io non sono schifo. Chiuso, mi fa schifo uno che mi fa l'urina addosso. No, non voglio che mi dite che sono anormale. Però, Giacomo, tutti i giorni voglio berla io. Aspetta, no. Giacomo, aspetta, fermo. Ma non fermo. Sono anormale io, oddio, non no, deve ragazzi. Passare questo concetto, mi fate arrabbiare. Non può passare il concetto che la normale tra di voi. Scusami, Davide, però stiamo parlando di un'altra cosa qui. Adesso lui, Giacomo, purtroppo è su e racconta nei dettagli quello che è inutile raccontare nei dettagli. È un altro discorso. Lui sostiene, adesso andiamo alla base del ragionamento, cioè alla base della discussione. Alla base del ragionamento. No, aspetta. Alla base del ragionamento. No, aspetta. Ma guarda che incredibile. No, c'è una, lui è intervenuto perché si è incazzato per una frase che io ho detto, che era, io sono dell'idea della signora Vladimir Luxuria. Ci sono molti italiani che vanno a transessuali. Secondo Luxuria, non sono, secondo Vladimir Luxuria, cioè un pensatore dei nostri giorni, un illustre pensatore dei nostri giorni, io paragonerei a quello che fu Cavour, a quello che fu Benedetto Croce, assolutamente certo. filosofi contemporanei, assolutamente la considero al pari livello di questi qua. Allora, la signora Vladimir Luxuria ha detto che chi va con i transessuali, e sono tanti in Italia, anche tra come dire, no, tra le persone rispettabilissime che non lo direbbero mai, eppure ci vanno lo stesso, giusto Giacomo? Perché immagino sì, che tu no, nella tua certo, carriera, giovane carriera, ma comunque carriera, ma tu fai la prostituta, no? No, guarda, io ho fatto tranquillamente la marchetta, non mi nascondo assolutamente. Anche tra l'altro, vabbè. Assolutamente. Guarda, assolutamente. Tre scooter mi sono cos'è cosa, che non hai fatto? È la cosa migliore che cos'è sai guarda, che questi cos'è che non hai fatto? Allora, c'è guarda, una cosa a 32 anni che non hai mai fatto? Sì, non ho scopato con donne perché mi fanno schifo. A parte questo, tutto il resto. Hai fatto tutto, hai fatto. Allora, onestamente posso, diciamo, dire di annoverare una certa esperienza. Allora, benissimo. Giacomo, Giacomo dice che non è vero che chi va con i transessuali gli piacciono le donne, ma è gay. Lui dice esatto, che è gay. Perché transessuale, guarda, sì, ma l'hai già detto il pisello, eccetera. Pulita. Il transessuale ha il pene, è in possesso del pene. Sì, ma l'hai già detto questo, tagliato. Ma non è vero, io è un concetto che è passato. E soprattutto, guardi. Transessuale non lo prende al massimo, te lo. Non te è lo vero, questo non è vero, no, questo no, non no, è vero. Lo prende per soldi, perché vieni a dire. No, la non è vero, Torino. Io conosco un sacco di persone, conosco qualche transessuale che lo fa anche non solo per soldi, che ama quella. È un transessuale falso come Renzi, vale quanto Renzi quel transessuale. Ma adesso stai mettendo insieme. Lei fa dei paragoni che responsabilità, quello vale azzardati vale zero, quantomeno. Come però, per preciso. Carità assolutamente. Vabbè. Io la penso è così, per me è così, assolutamente. Vabbè, comunque così. Tu dici Luxuria dice stronzate, questa è la cosa. No, non dice guarda, io ti dico Luxuria è stata al Parlamento l'unica legge che è riuscita a fare di dire che i trans possono andare al bagno delle femmine. Minchia che legge, guarda, se ne stava cioè a non ha fatto non ha fatto niente per i transessuali, per i gay, niente, assolutamente. Cosa ha fatto? Vabbè, ma che poteva fare in Parlamento da sola, dai. Tu, Ma che poi una lezzina piccola, una piccola. Ma io invece, che, io invece come ti sembro? Che ne so, magari hai qualche giudizio pure su di me. Froccio 100%, guarda, ma sono più sicuro che tu sia froccio di quanto che il mio pullman abbia un motore V10 sotto. Ma tu che fai, guarda, l'autista, che fai? Assolutamente sì, autobus da turismo. Autobus da turismo. Dunque conosci figure di là, rimorchi come un pazzo lì, figuriamoci. Sì, assolutamente, voglia con le scolaresche, ragazzi, guarda una scolaresca. No, beh, aspetta, scolaresche, scusa. Quanti anni hanno? Quanti anni hanno? Vabbè, io ti parlo di quarta e quinta superiore, quindi ti parlo comunque di persone di una certa quarta e quinta superiore, sempre minorenni, sono maggiorenni. Ma sì, ma Cruciani sono i più porci. Ma questa è una cosa pazzesca, ma è una cosa incredibile, è da denuncia penale questa roba qui. Ma ho capito, ma vai con i minorenni, ma è uno scandalo, dai. Diciamo che ci sono dei ripetenti, mettiamola così, ci sono dei ripetenti. Vabbè, comunque io sarei frocio secondo te, sarei frocio. Ma tu sei feticista dichiarato innanzitutto, quindi quello che c'è il feticismo appartiene anche agli eterosessuali. Ti posso garantire che se tu vieni a fare un girettino con me, ti posso garantire che tu la figa non la vedi più per il resto della tua vita. Poi io non ho detto che sei fradico, se tu vieni a fare un girettino con me, secondo me la figa si ragazzi ripeti. Dobbiamo chiudere, va, Parenzo, meno male. Chiudiamo, che dici? No. Ciao Gabbo, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Perché Gabbo? Il mio migliore amico mi sta ascoltando, quindi lo saluto. Ciao Gabbo. Ma che stiamo a Radio Canicattini? Più di questo non si possa più dire. Fare un saluto, cosa ti conta? Vabbè, ma che vuol dire? Dai, ciao. Più educata ti che ha fatto oggi. Torino, ciao, ma non vengo, manco ciao, vado per i fatti miei a Torino. Ma viale che cosa? Ma che fai? Batti sul viale? È una cosa incredibile. A domani, 18:30, questa è la Zanzara. Ciao. Ciao, vi bacio a tutte e due, andate a fare in culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.